Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio del podcast The Tentacolo Viola. Oggi, oltre ai tre soliti bamboccioni, ovvero il sottoscritto Davide Moretto, Gianluigi Briguglio, ciao a tutte, e Andrea Maderna, ciao, abbiamo il nostro primo ospite, e che ospite, ovvero l'uomo che ha importato in Italia il podcast videoludico, colui che guarda il coma etilico in faccia ridendogli, direttamente da Rincast e dalla Finlandia, Tommaso Gazzu De Benetti. Ciao a tutti. Ciao Tommaso, benvenuto. Cosa ci si prova a essere ospite di una cosa che è nata da Rincast, praticamente per caso? No, è fantastico perché abbiamo fatto questa puntata insieme dove voi eravate i miei ospiti e adesso sono io la vittima, quindi vedrò. So che dovete farmi delle domande indiscrete. E oltretutto vorrei dire che Gazzo ha questa bellissima voce baritonale perché ieri sera si è divertito un sacco, diciamo. Sì, sì, sono tornato alle 3:30, sono rimasto... Ho ballato, ho bevuto e se volete vi do anche dei dettagli. Sono andato a una cena di partito dove sto finendo gli studi. Qui io abito in Finlandia, come ha accennato Davide. Qui non badano molto all'associazione di cibo e alcolici. Per esempio, ieri sera ho bevuto svariati tipi di alcolici che si sono mischiati nel mio organismo, creando delle reazioni chimiche che vi lascio immaginare. Ho bevuto vino, ho bevuto spumante, vodka, Jägermeister, punch e qualcosa, birra e altre cose. Vi lascio immaginare che... ho una proposta: se devi correre in bagno, non interrompiamo la registrazione. Sì, voglio sentire tutto. Vuoi fare una diretta? Avremo degli ascolti incredibili, credo. Che cosa hai mangiato? Di c'era dell'agnello, ma comunque è vivo, sacrifici. Ma l'idea è che il cibo serve per assorbire tutto l'alcol che ti danno da bere. Non è che c'è una cena per mangiare, è una cena dove si beve e ogni tanto mangi, giusto per non finire lì sul luogo. Una banale scusa, diciamo. Esatto. Bene, bene. Allora, inizierei la puntata con qualche domanda al nostro ospite. Caro Tommaso, quando abbiamo fatto la puntata extra, dicevi che praticamente c'erano solo due podcast in Italia che parlano di videogiochi. Sì. Ora ce ne sono 140 milioni di miliardi. Avrei fatto meglio star zitto, probabilmente. Ma secondo te questa cosa è, come dire, aiuta, perché così la parola podcast, che è ignorata da milioni di persone in Italia, gira anche nell'ambito videogiochi, o... può essere solo deleteria perché, insomma, la gente dopo un po' si rompe il cazzo e non ascolta più niente, o comunque ascolta proprio ancora meno di quello che ascolta adesso? Ma guarda, è singolare perché per un lungo periodo siamo stati veramente in due. Rincast ha iniziato prima, poi è arrivato Multiplayer, che però ha molte più puntate perché loro escono settimanalmente. E per un lungo periodo è stato così. Dopo, d'improvviso, credo nel giro degli ultimi 2 mesi, ne sono usciti altri 3, 4, 5, forse anche di più. Sì. E ormai è quasi uno alla settimana. Siamo arrivati a un punto di rottura. Esistono delle spiegazioni economiche per questa faccenda qui. È più o meno quando la cosa che è successa con l'iPod, che c'erano lettori MP3 anche prima, poi è arrivato l'iPod, evidentemente da quel momento in poi tutti quanti si sono buttati a fare la stessa cosa. Comunque, in linea generale penso che sia una cosa positiva, nel senso, il mercato, chiamiamolo così il mercato perché comunque sono cose gratuite, dei podcast in Italia è molto molto limitato. Io so più o meno il numero di ascoltatori che fa Rincast, posso immaginare quelli che fa Multiplayer, perché vedo più o meno in che a che livello sono su iTunes e cose del genere. Sicuramente in questa fase è ancora, c'è un sacco di gente che non ha la più pallida idea di cosa sia un podcast. Poi che sia salutare avere 5 podcast sugli stessi argomenti, più o meno negli stessi periodi, ecco, magari quello no, però ci sarà sicuramente una selezione naturale a un certo punto. Sì, non lo so, adesso, cioè, effettivamente inizio un po' a preoccuparmi, perché vuol dire che... Ce la stiamo andando praticamente, no? No, intendo dire che adesso da posizione privilegiata in cui, per esempio, dominante, diciamo, eravamo prima, adesso è finito il tempo di sedersi sugli allori, dobbiamo lavorare. Sì, dobbiamo lavorare e dimostrare, insomma, che che non siamo dei vecchietti rincoglioniti, diciamo così. Anche perché più vecchio sono sempre io, di tutto il mondo, quindi... No, comunque, ecco, cioè il problema è il tempo degli utenti, nel senso, quando ci sono 5 podcast sulle stesse cose, un utente non se li ascolta tutti e 5 di solito, un utente medio. Io me li ascolto perché mi interessa sapere cosa fanno gli altri, però uno medio se ne ascolta 1, 2, 3, ecco. Sì. Ma infatti secondo me può succedere molto la cosa che uno magari ascolta il podcast di multiplayer perché segue multiplayer, ma non va poi ad ascoltare gli altri 6 podcast che ci sono. Cioè, secondo me c'è il rischio che si rimanga ognuno nel suo cortile. Ma guarda, perché penso sia impossibile seguirli tutti. Io non ce la faccio, per esempio. Ho provato, però non... inascoltabile, bisogna dire. Dipende, cioè per esempio io non faccio tantissimo sport, però quando lo faccio vado a correre. Quindi se vai a correre è comodo avere 4-5 podcast diversi. Ne ascolto anche un paio in inglese perché sono molto interessanti, poi ti danno delle buone idee. Sì, però so di essere un'eccezione, cioè no, oggettivamente. È anche vero che quando tutti dicono le stesse news, e noi stessi, è quello che ti rompi coglione. Ma infatti è importante, avendone la voglia, ascoltare gli altri anche per dire, vabbè, è inutile che parliamo anche noi di sta minchiata se usciamo una settimana dopo. Infatti credo, a me un podcast che piaceva moltissimo, che purtroppo non ha avuto seguito per problemi relativi al personali relativi all'autore, di Mario Morandi, era Radio Game, non so se l'avete mai sentito. Sì. Era un podcast fatto benissimo, tra l'altro, perché credo lui avesse esperienze come DJ, che parlava della musica nei videogiochi. Quella era una cosa completamente diversa, diciamo complementare, non trattava delle news, non trattava di niente, e aveva uno spazio tutto suo. Adesso, essendo che comunque i podcast che ci sono in giro più o meno vanno a pescare nello stesso diciamo bacino di utenti, sì, le cose iniziano a diventare interessanti, diciamo così. Poi Radio Game era proprio una trasmissione radiofonica praticamente, cioè era talmente fatta bene come costruzione di tutto che era proprio completamente diversa anche come dicevi tu, come stile, come target, come tutto. Insomma. Sì, perché lui credo facesse musica, quindi sapeva sicuramente come registrare, era veramente ottimo, è stato interrotto per motivi vari e spero che un giorno possa ripartire in qualche forma, anche perché era molto interessante. Ma è qualcosa ha ricominciato sul blog, no? Sì, qualcosina ha fatto, però non è proprio il ritorno di quello che era prima, insomma. Comunque io vorrei aggiungere una cosa, secondo me il catalizzatore siamo noi tre, perché un sacco di gente ha detto, se questi stronzi possono fare un podcast, sì, lo posso fare anch'io. Sì, potrebbe essere, perché effettivamente dopo che siete partiti voi è successo il casino, quindi voi quando siete partiti 2 mesi fa? Sì, ma al di là degli stronzi, magari l'idea è proprio, cioè se tre che erano semplicemente ascoltatori e non hanno sta grande esperienza in materia possono farlo, vabbè, ma cazzo, proviamoci anche noi. Questo lo dici tu, come direbbe Vito. Ma sì, perché in realtà, cioè, gli strumenti che ti servono non sono particolarmente difficili da procurarsi, è più avere le persone giuste e le cose giuste da dire, quello è un po' più difficile, però... So che ad alcuni Ringcast non piace perché facciamo troppo casino, perché io mi ubriaco e cose del genere. Chiamava quel tizio là che ti ha mandato la mail? Barbone Rocker. Ah, sì. Per esempio c'è Gaming Effect, è un po' più serioso. No, a me no, per esempio l'ultimo episodio è molto interessante, quello con Alberto Ziello, che è PR Ubisoft, è una mia vecchia conoscenza, lavoravamo insieme su Play Online. Oppure la quarta parla, cioè, delle esclusive su Assassin's Creed 2. Va bene, poi insomma è uscito Onda Ludica, nuovo, è un po' più, è un po' diverso come approccio, però... abbiamo Outcast, che è decisamente cazzone. Va bene, comunque non so se posso fare tutta questa pubblicità. Ce n'è uno di Outcast, non abbiamo paura. Sulle palle. Oh, quello lì, mamma mia. Outcast è il peggiore. ma sono d'accordo, e quello è l'obiettivo, tra l'altro. Allora, caro Tommaso, hai mai tentato di giocare perché volevi vedere la fine di un livello, di un gioco, nello stato psicofisico peggiore, tipo appunto sbronzo marcio, febbre alta, post-coito, insomma, o precoito più che altro, insomma, in situazioni estreme, diciamo? Oddio, allora, se escludiamo l'Ips, che va giocato rigorosamente ubriachi, però è molto più divertente, insomma, è lì, è proprio l'essere ubriachi è parte del divertimento, quindi in quel caso non è stata una sofferenza. Ecco, l'unica cosa che mi viene in mente è Metal Gear Solid 4, che ho fatto la cazzata, l'ho anche detta in una delle puntate recenti, ho fatto sta cazzata di finirlo credo a mezzanotte e mezza, solo che il problema è che il gioco non è che finisce nel giro di 10 minuti, c'è un'ora e mezza di filmato. Io dovevo lavorare il giorno dopo, ero stanchissimo, però ero alla fine, cosa dovevo fare? Ho detto vabbè, me la guardo, sarà meno, cioè mi immaginavo che sta ora e mezza fosse una metafora, invece no, è proprio un'ora e mezza. 90 minuti. E me la sono guardata tutta, però cioè, veramente ho fatto fatica a tenere gli occhi aperti, non perché non fosse interessante, ma perché era troppo tardi, cioè, fisicamente insostenibile. Ma poi avevo sempre paura perché mi hanno detto che si poteva salvare a metà, ma io non mi fido di sta roba. Ho detto cazzo, poi premo il pulsante sbagliato, mi skippa il filmato e non lo vedrò mai più in tutta la mia vita. Vabbè, dai, c'è YouTube. O l'hanno cancellato anche da lì apposta. Vabbè, questa è stata la cosa più estrema, direi. No, perché io mi ricordo di una ho finito Resident Evil 2 ubriaco fradicio, ho dovuto rifinirlo perché non ti ricordavi. Ricordavo assolutamente. No, ecco, mi è capitato vedendo un film che non mi ricordo assolutamente com'era il film perché ero ubriaco. È stato con il secondo episodio di Saw, l'enigmista. Beh, posso capire perché non anche se... l'ho visto, ma ero veramente così sbronzo che non mi ricordo assolutamente niente. Vabbè, dico, non è che ti sei perso questo. Però mi dispiace perché poi ho visto il 3, quindi c'era delle robe che non mi Terza domanda, ho visto il trailer del documentario Until the Light Take Us, adesso non so se hai visto, l'ho visto per caso, è un film, sì. È un documentario che parla della scena death metal norvegese, appunto con chiese bruciate, te ne immagini un death metal hero dove devi bruciare le chiese? Ma sai, è una cosa molto 90s, cioè io ho un passato da metallaro, quindi conosco abbastanza bene la faccenda. È una cosa che succedeva all'inizio, che è nata un po' come un gioco, poi è diventata abbastanza seria, nel senso che la gente iniziava veramente a bruciare le cose, oppure si pugnalavano e cose simili, che poi alcuni fan hanno preso un po' troppo seriamente, eccetera. Però... ci sono anche storie di attentati, perché poi c'è una scena svedese e una scena sì, norvegese, ma... che non vanno molto d'accordo, quindi, anzi non andavano, perché ormai sono tutti amiconi, cioè se li conosci sti tizi qua sono dei panzoni con i capelli lunghi che vogliono solo scoparsi le gruppi e... Quindi Activision non farà questo fantastico gioco, me lo sono immaginato con ma non so, guarda, con la chitarra forma di croce rovesciata. È uscito Brutal Legend, che devo dire fa un ottimo lavoro, sia nel prendere in giro un po' tutte queste cose dell'heavy metal, sia però anche a fare un tributo, perché effettivamente ci sono delle cose interessanti che magari chi non segue la scena non riesce a capire. Ecco, quello secondo me è un buon equilibrio, cioè se riesce a farlo in maniera un po' goliardica, così vale la pena, ma cioè, che nicchia di mercato può avere un Guitar Hero death metal, secondo me? Paesi nordici. Sì, e basta, perché poi cioè, lo vendi in Italia a 140 persone. Peraltro che si suicidano il giorno dopo. Sì, non comprano il seguito. Esatto. Gatsu, tu hai fatto un tot di cose legate ai videogiochi, prima Ringcast, c'è Babel, vabbè, non è che l'hai fatte da solo, ma insomma... sono cose in cui sei molto presente. È colpa mia, diciamo così. Esattamente. E quello che mi chiedo è, sono tutte cose che fai, credo, suppongo, nel tuo tempo libero, come attività, diciamo, collaterale, per passione, non sono un lavoro. A te va bene così? Nel senso, anzi, magari ci tieni anche che rimangano attività collaterali, secondarie, perché vabbè, con tutti i limiti che può avere la cosa, però c'è anche maggiore libertà nel farle, o ti piacerebbe che diventassero il tuo lavoro queste cose? Guarda, allora ho fatto anche qualcosa a pagamento, per esempio ho fatto traduzioni di giochi e mi pagavano, oppure ho scritto per alcune alcuni magazine online, diciamo, e il pagamento di solito avveniva, nel senso che ti mandavano il gioco e c'era la recensione, quindi sappiamo un po' questa faccenda, però a me al tempo andava. Però intendo che diventasse proprio la tua carriera, nel senso non una cosa che faccio ogni tanto e mi pagano. Guarda, ci sarebbero delle possibilità, però il problema è che fondamentalmente dovrei lavorare in un mercato italiano dove i soldi che girano sono veramente troppo pochi per mantenere una redazione. E io personalmente sono in grado di scrivere in inglese. Buona parte della gente che collabora con me, alcuni lo sanno fare, alcuni no. Quindi abbiamo pensato diverse volte di cercare di diventare un po' più internazionali, però è un problema che è un lavoro immenso. E non saremo mai allo stesso livello di uno che può parlare la lingua in maniera nativa. Dopodiché io un lavoro al momento ce l'ho, mi piace abbastanza e ha anche qualcosa a che fare con i videogiochi, non è esattamente fare recensioni, però vedo, diciamo, come funzionano le società che sviluppano giochi, vedo come vengono finanziate e che problemi incontrano, per esempio sono tutti dei retroscena su Remedy e robe del genere, però mi piacerebbe lavorare in ambiti simili, sarebbe fichissimo avere una software house, ecco, quella è una cosa che, su cui mi piacerebbe un giorno avere qualche possibilità, però servono dei fondi che al momento veramente non posso disporre. Per lavorare in maniera, essere pagato, cioè sarebbe bello se riuscissi a pagarmi la bolletta o almeno parte della bolletta con Rincast e cose del genere. Next Game mi aveva offerto due spiccioli per fargli il reportage dalla Nordic Game Conference e cose così, però offrivano un pagamento talmente basso, soprattutto per i costi che ho io, perché magari in Italia poteva ancora essere accettabile, ma qui veramente con quello che mi offrivano, cioè, non ha senso. A quel punto lo faccio gratuitamente. Ci terrei a precisare che avevi detto che comunque non era neanche male rispetto ad altre offerte che avevi ricevuto. Sì, perché le altre offerte sono zero. Sì, l'offerta che avrà Andrea da domani, Gren. Chissà che a lavorare sui siti web o sei uno di quelli che fanno parte della redazione oppure non è certo una cosa con cui campi facendo il collaboratore. No, cioè, per farvi un esempio molto terra terra, qua se io vado a fare colazione al bar, un cappuccino e una brioche mi costano fra gli 8 e i 10 euro. Quindi, Madonna! No, infatti non vado al bar a fare colazione, faccio il caffè a casa. Sono d'oro queste cose qui. Voglio sperare che il tuo stipendio sia adeguato a questa cosa, perché sennò... Sì, beh, quello è un altro discorso, potrebbe essere più adeguato. Hanno le finlandesi. Puoi fare come i filippini. Ho capito, ma le finlandesi se gli vuoi offrire un pranzo, cioè cosa ci spendi tutto lo stipendio di un mese? In realtà è più il problema di andare fuori a mangiare, perché se ti fai le cose a casa non spendi un granché, però vabbè, comunque questo è un altro discorso. A sto punto, se non devo guadagnarci quasi niente, tanto vale che lo faccio gratuitamente con i tempi che voglio io, scrivendo quello che mi pare senza che nessuno mi rompa le palle, perché uno dei problemi che avevo quando scrivevo in maniera, nel senso che per delle riviste ufficiali, diciamo così, era che magari non potevo recensire il gioco che volevo, oppure dovevo giocarci anche quando non avevo voglia. E siccome al tempo mi piacevano i JRPG, era proprio una tragedia, perché in una settimana dovevo farmi 80 ore di gioco, che veramente... Quindi sì, se diciamo, contrappasso non è, si può dire contrappasso, non è sufficiente, tanto vale che lo faccio gratis, insomma non mi cambia neanche. Devo dire una cosa, tutte queste cazzate che faccio nel tempo libero mi hanno aiutato per esempio a trovare il lavoro vero, perché dove lavoro adesso erano molto interessati a tutti questi progetti che avevo legati ai giochi, quindi in realtà mi è servito per vie traverse, diciamo. E adesso le news del giorno. Welcome back to the stage of history. Con Halo 3 è iniziata una sorta di, come dire, narcisismo videoludico, dove praticamente tra replay, foto online, replay scaricabili, community, eccetera eccetera, tutti si fotografano mentre fanno i frag online o mentre fanno il sorpasso finale a Forza Motorsport 3. Ma secondo voi è una cosa, insomma, che ha un senso o è puramente una caccata? No, ce l'ha. Ce l'ha? Sì. Non ti è mai capitato a FIFA di fare un gol bellissimo, cioè di metterlo nel sito? Sì, ma io continuo a guardarli costantemente e mi piaccio. Ma guarda, io, scusa, faccio un commento veloce e poi lascio parlare gli altri, perché veramente ho già parlato troppo. Cioè, è l'equivalente digitale del misurarsi il pene con il righello, no? Questo non lo faccio, però. Ma tra l'altro non è molto distante dagli achievement, voglio dire. Se proprio quel concetto lì, quanto sei figo. Ah, guarda, io ho fatto 200.000 punti. Sì, però vedi, io per gli achievement non mi interessano niente. Però già vedermi, che ne so, il gol più e più volte per quello che ho fatto. È un genere diverso di un concetto, penso, non troppo distante, cioè far vedere quanto sei figo a fare una cosa. Beh, io per mesi ho avuto come sfondo del desktop al lavoro io che frago uno online ad Halo 3 e tutti mi chiedevano: ma cos'è quello schifo? E io dicevo: no, sono io che sparo, io sono deficiente. Come quindi... tempi di Ultimo Online, quando ti facevi lo screen del tuo personaggino tutto pompato con tipo, tutta l'armatura forte, poi te lo mettevi come avatar su MSN, cose del genere, non mi è mai capitato. No, no, però perché non giocavo Ultimo Online, però capisco perfettamente. Sui forum, sì. Però adesso è tutto, come dire, cioè le software house hanno capito che evidentemente la cosa ha preso e quindi hanno costruito un'infrastruttura, cioè l'infrastruttura della Bungie per Halo, io non so se avete presente, ma sul sito della Bungie tu puoi vedere la partita che hai fatto, dove sei morto tutte le volte, dove hai ammazzato, con la mappa in 3D, dove hai ammazzato l'altro tutte le volte, con gli screenshot, con... L'unica cosa che non puoi scaricare sono i filmati, perché li puoi solo sharare da 360 a 360, ma è una cosa che secondo me ha portato via una marea di risorse. Magari avessero fatto un po' meglio la grafica invece di portare via 800 ma, miliardi di persone. Sai, ci sono un sacco di utenti a cui piace fare queste comparazioni numerologiche. Oddio, guarda, evidentemente per catturare un certo tipo di audience devi fare così, non sono tutti così. E infatti, cioè, io che mi ricordo, le uniche foto che ho fatto le ho fatte su Wipeout HD e solo cercando di avere delle foto esteticamente belle che potessi usare come desktop, ma a parte che sono una sega, quindi probabilmente non potrei nemmeno fare le foto mentre supero gli altri, perché sono sempre ultimo. Sì, no, francamente non ho questa mania. Sì. Per esempio anch'io, però effettivamente mi diverto molto di più a gasarmi, che ne so, guardando le foto di Halo 3, che non gli achievement, che è una cosa che non riesco ancora a farmi entrare dentro. Sarà che non ho tempo di giocare, però dover sbloccare delle cose perdendo, cioè degli obiettivi dove devi perdere una vita in un determinato punto per avere l'obiettivo è veramente, cioè, non ci arriverei mai. Quelli sono gli obiettivi brutti che servono solo per chi, per gli psicopatici. Sì, no, ma per chi, perché comunque c'è un sacco di gente a cui non interessa tanto il videogioco in sé, ma proprio se è intrippata col fatto di fare più achievement possibile, allora si gioca magari tutte le conversioni dei film. No, sai anche cosa, che un achievement ti dà un ordine e tu devi eseguire una certa sequenza di azioni per ottenere quell'achievement. Invece magari quando fai la foto sei tu che decidi cosa vuoi fare, cosa vuoi ottenere, e poi ti fai la foto all'apice della tua gloria, quindi magari è un po' diverso anche in quello. Sì, sì, però penso che chi si diverte proprio con gli achievement, per lui il videogioco sia diventato appunto seguire le istruzioni dell'achievement piuttosto che giocare a Halo 3. Ma immagino che sia una droga alla fine, perché cioè, non credo che ti diverti proprio quando magari passi il punto in cui c'era l'obiettivo difficile e tu devi ricaricare il pezzo, poi magari te lo sei... Insomma, deve essere una vita orribile da videogioco, non so come... No, ma sì, devono essere delle persone orribili con una vita orribile. Sì, guarda, ne conosco qualcuno e confermo. Per carità, esiste la gente brutta e bisogna accontentare anche quella, però... No, però, beh, alcuni achievement secondo me sono anche... Cioè, a parte gli achievement quelli di progressione, che comunque secondo me ti danno un bel ritmo all'andare avanti al gioco. Tipo, hai fatto questa cosa figa, ti senti che stai giocando bene al gioco. Vabbè, anche il tot di uccisioni, per esempio. Quelli sì, sono carine. E poi a me piacciono molto gli achievement, tipo quelli, per esempio, ricordo sempre di Dead Rising, che magari se ti metti a farli ti spingono a esplorare ogni singola cagatina del gioco e vedi cose che magari altrimenti a cui non avresti fatto caso. Per esempio, Uncharted, secondo me, non ha degli achievement bruttissimi, io. Ma non sono neanche molto belli, a me non hanno stupito molto quelli del... Però comunque ti permettono sempre di esplorare un pochettino la mappa, cercare tutti quei tesori, No, però non originalissimi. Se devo pensare, i più interessanti sono... Half-Life 2 ne ha di bellissimi, è che non valgono quasi niente. È che però ti spingono veramente a provare il gioco in maniera abbastanza alternativa. E purtroppo valgono poco, quindi ce ne sono 9.000 da raccogliere. Quelli di Geometry Wars 2 anche sono carini. Quelli di Geometry Wars 2 sono interessanti perché ti portano a fare delle cose che magari non faresti. E di divertenti mi viene in mente, ho ricevuto Brutal Legend ieri e alcuni hanno dei titoli fantastici, non so se poi per sbloccarli sia così divertente, perché non sono ancora abbastanza avanti nel gioco, però perlomeno sembrano divertenti da sbloccare. Ce n'è tipo uno, cavalca un cinghiale sul mare di lacrime, una roba del genere, sembra divertente. Dopo aver parlato degli psicopatici e degli achievement, Shigeru Miyamoto, come si dice esattamente? Non ho mai imparato a dirlo. Shigeru Miyamoto ha rilasciato un'intervista qualche tempo fa dove ovviamente gli hanno chiesto perché New Super Mario Bros. Wii non avesse il multiplayer online, e lui ha detto che avessero fatto il multiplayer online avrebbero dovuto distogliere l'attenzione da alcune parti del gioco, che appunto sarebbe risultato meno perfetto, e quindi hanno deciso che è meglio avere un gioco perfetto offline dove il multiplayer è solo nella propria stanzetta con altri amici e quindi hanno lasciato l'online a parte, fuori dal progetto. Secondo voi ha un senso questa, cioè comunque è un gioco monco anche se perfetto, o è perfetto così nel senso che è la quadratura del cerchio, cioè il gioco è inattaccabile, l'online non ha senso in questo gioco? Io vorrei dire una roba, c'è gente che tre amici veri non ce li ha. No, hai ragione, perché pure io penso la stessa cosa. È vero, perché io, cioè, per esempio, adesso che vivo all'estero, ho degli amici italiani qua, ma magari non sono videogiocatori. Quindi in realtà per me sarebbe molto difficile riempirmi una stanza di quattro persone per giocare a Super Mario, al di là del fatto che dovrei comprarmi così tante periferiche, che poi è abbastanza inquietante, insomma dovrei vendere un rene, ma mi è molto più comodo giocare online con amici che conosco tramite forum, eccetera, semplicemente perché è più comodo, cioè portarti quattro persone in casa solo per giocare a Super Mario è impossibile, cioè o c'hai sempre feste a casa, allora è facile, ma se no... È un videoproiettore anche. È un videoproiettore, esatto. Mi sembra una dichiarazione un po' del cazzo, anche perché, cioè, vuol dire che secondo me ha semplicemente deciso che non gli interessava farlo, perché allora, scusa, l'hanno fatto in Mario Kart, l'online, cos'è, lì hanno tolto, gli è venuto peggio Mario Kart perché hanno dovuto impiegare del tempo per fare l'online. È una scusa però banalissima. Secondo me volevano investire molto sul fatto che si gioca in compagnia, probabilmente anche più divertente, perché sicuramente è più divertente se c'hai tre amici veri da spintonare di fianco. Vale per qualsiasi gioco questo, alla sì, fine. Anche per Mario Kart, di sicuro. Sì, cioè non toglie che Mario Kart online sia divertente. Ma dico, anche un FIFA o un PES sono più divertenti se hai l'amico accanto. Però dico, nella notte, se vuoi giocare, vuoi farti una partita online, non penso che sia deleterio. Non so, cioè, perché secondo me Super Mario non è Wii Sport. Wii Sport puoi convincere altre tre persone a giocare con te 10 minuti. Sì. Però convincerne tre che non sono videogiocatrici a Super Mario, ma la vedo un po' più ostica. Cioè, a Wii Sport puoi convincere anche le ragazze, a Super Mario secondo me non tutte. Comunque io avrei preferito un gioco con un paio di bachi e l'online che un gioco perfetto ma senza online. Se sì, seguiamo quello che ha detto Miyamoto. Sì, anche perché poi visto che quando l'hanno presentato sto gioco hanno detto che la grande figata è il fatto che si gioca in quattro, è un peccato che poi un sacco di gente non ci può giocare un quattro perché non c'è l'online. Ma tantissima gente non si può giocare. Appunto. Guarda, sicuramente uno dei motivi per cui non l'hanno fatto è che anche hanno cercato di evitare il più possibile che i bambini si trovassero a giocare con gente che gli fa casino, che li spinge continuamente giù dai burroni e cose del genere. Con i funghetti che ti dicono vieni bambino, andiamo in camera. Esatto. Il funghetto allucinogeno. Beh, potevano usare i loro soliti pratici sistemi per giocare online. Innovativi sistemi. Un codice di 8000 cifre, esatto. Il codice fiscale potevano mettere. Ma secondo me anche la loro mentalità del videogioco in famiglia, no? Non lo so, hanno questa mentalità del che tu devi giocare col nonno, con questa, cioè, c'è gente veramente sola. l'online per loro è tutto. Non l'ho ancora capito, secondo me. La cosa sconvolgente è che l'abbia messo in Mario Kart a questo punto l'online. Secondo me tipo gli è capitato. Appena è uscito, ma l'avete messo online in Mario Kart? Sì, bastardi! No, non so, secondo me è difficile perché c'è veramente faccio fatica a giocare in due, tipo non sono ancora riuscito a fare un doppio locale a Street Fighter 4 e ne ho di amici a cui piace roba tipo Street Fighter, tutti i doppi che ho fatto li ho fatti online perché è più facile oggettivamente, certo, qua, con i miei amici vado al bar, vado fuori, è difficile che diciamo oggi vengo a giocare a Street Fighter, se passa per di qua a bersi un caffè magari giochiamo, ma sennò no. Io per esempio ho un amico videogiocatore che però non gioca ai giochi di calcio, cioè anche con lui che è la persona più fissata che conosco tipo me, cioè giocassimo gomito a gomito lo massacrerei 8-0 tutte le partite, quindi l'online è perfetto perché anche è la possibilità di giocare contro persone che ti danno un minimo di soddisfazione, cioè... Sta filosofia di Nintendo di avere la gente in casa non è sbagliata di principio, il problema è che non è realistica perché a parte che non esistono ste famiglie col nonno, il nero e il cinese e panariello e panariello ma che famiglia ghiacciante. No, ma che poi appunto cioè, i momenti in cui una famiglia è tutta radunata e può giocare insieme sono Natale, Pasqua e il compleanno di qualcuno. Però lì giochi alla tombola a Natale, quindi o fai Wii Tombola che probabilmente sì, però lo puoi anche tirar fuori, però cioè, secondo me è difficile. Poi magari i bambini delle elementari riescono a portarsi tre amici a casa e possono sì, farlo. Però secondo me c'è anche un altro problema, sicuramente i bambini o comunque i ragazzini hanno più occasioni di trovarsi assieme a giocare, però un conto è Street Fighter e FIFA che ci si becca, si fa la partita e via. Questo qua è anche un gioco che devi giocarti dall'inizio alla fine. fine. E che palle doversi ogni volta mettere d'accordo, ci vediamo in quattro a casa per giocare il livello di Mario. È chiaramente non è indirizzato a noi. Cioè, io e i miei amici c'hanno 35, 33, 34 anni. E organizzarne tre per venire a casa mia a giocare a Mario sembriamo veramente dei deficienti, cioè, non si può fare. Bene, e visto che parliamo sempre di Nintendo, qualche tempo fa c'era il solito rumor settimanale sulle specifiche del Wii 2, dove si parla di 1080p, Blu-ray, ma la smettiamo, che tanto non lo faranno mai, stanno facendo troppi soldi. Ma, guarda, ho ricevuto un aggiornamento su Twitter prima da Edge Online, diceva che, allora aspetta, lo recupero, no niente, Twitter error, allora ok, allora Nintendo of Japan dice che lo spostamento all'alta definizione appare come un processo naturale, però il boss di Nintendo of America dice che il Wii HD non succederà, won't happen, quindi non sarà disponibile. Quindi in realtà da quello che si intuisce è che non ci sarà un Wii HD, però le prossime console di Nintendo saranno ovviamente HD, il che mi sembrava abbastanza scontato, però evidentemente lo speriamo un po' tutti, perché se no veramente quei quadrati. No, quello che mi chiedo io è che, dato che stanno facendo un casino di soldi con questa console, vendendo la gente che non ha mai avuto una console e la compra come se fosse il Monopoli, cioè vendergliene un'altra spiegandogli, perché anche il Wii Motion Plus non ha avuto lo stesso successo di tutte le vaccate del Wii Fit o di tutte le vaccate che hanno tirato fuori prima. Quindi anche l'utente che si è comprato il Wii si sta dimostrando una persona che non solo non compra altri giochi, ma secondo me fa anche proprio fatica a immaginare ma cos'è un Wii 2? Perché devo comprarmi un Wii? Sì, infatti non ha senso, perché è praticamente impossibile venderlo alla stessa utenza. Ma a parte che, cioè, è scontato che le prossime console avranno l'HD per il semplice fatto che non puoi più comprare una televisione SD da nessuna parte. Quindi neanche se vuoi puoi comprarla. E dopodiché, sì, oddio, per esempio quella cosa del Wii Motion Plus, lì secondo me hanno anche un po' sbagliato, perché, cioè, a parte i giochi che sono usciti contemporaneamente alla periferica, no, non c'è più niente. Quindi, quelli che l'hanno comprato si sono presi una bella inculata. Adesso il prossimo che arriva è Red Steel 2, dopo di quello cosa c'è? Basta, anzi, stanno annunciando nuovi giochi che non lo supportano, tipo Epic Mickey, per cui voglio dire. Sì, ma poi Red Steel 2 sarà la merda di nuovo, quindi basta. Non hanno fatto pubblicità. Ma non è malaccio Red Steel 2, attenzione. Ah, ma il problema, più della pubblicità, il problema è che hanno un'utenza divisa in due, che alcuni che lo possono usare, alcuni no. Come fai a fare un gioco che funziona solo... che funziona solo sulla minima percentuale dei Wii, non ha tenuto il prezzo basso della periferica, però si vede che comunque... Vabbè, ci mancava, un pezzo di plastica. No, è come i giochi della bilancia, quanti ne sono usciti? È uscito il Wii Fit, è uscito... Wii Fit Plus. C'è qualche gioco che la supporta come modalità extra, però... È uscito Punch-Out, però se parliamo di 5-6 giochi su 10.000... Wii Music ti serve se vuoi suonare la batteria. Mio Dio. Mi ha fatto ricordare un momento brutto della mia vita. Comunque. Quello è E3 2007. Sì, no, proprio Wii Music in sé, cioè per me veramente Nintendo lì ha fatto la cazzata della mondo, però vabbè, cioè quelli hanno tirato fuori Mario 64 e se ne escono i Music, le stesse. No, comunque, per dire, cioè la bilancia è sorprendente quante ne abbiamo vendute, lì era il gioco che funzionava, era il Wii Fit che andava. Però è strano, cioè ce ne hanno piazzate 23 milioni e ci sono ancora 5 giochi che la supportano. Perché sanno benissimo che nessuno compra, cioè sanno benissimo che la bilancia l'hanno comprata per fare Wii Fit, punto. Loro hanno l'achievement, loro è andato, basta. Leggo adesso una news da Game Sushi: Iwata 20 anni per il vero digital delivery. Ah, sì, l'ho visto. 20 anni, cazzo, io fra 20 anni voglio le macchine volanti, no? Pensa che il ritorno al futuro l'avremmo dovute già avere, se uno guarda il ritorno al futuro. Ma sei scemo, Iwata. Stanno freschi quelli che hanno comprato Wii Wii per... No, a me piace. Poi, mio modo è inoltre ribadito che abbiamo un particolare interesse nello sfruttare le possibilità di connessione tra periferiche. Mi è venuto in mente quel cavetto là che avevano fatto per il Game Boy Advance e il GameCube. L'hanno usato in cazzata impressionante. La cosa allucinante è che questi sono quelli che negli anni 90 ti facevano giocare l'episodio di Zelda scaricabile via satellite. C'erano avanti un tempo su queste cose. Poi sono fermati. Hanno detto non facciamo soldi così. Ma fermati non direi, perché comunque riescono sempre a innovare. Cioè, se pensi al motion control, adesso sono tutti gli altri che gli vanno dietro. Quello è vero. Fermati no, però hanno fatto questo spostamento laterale che è a tratti incomprensibile, a tratti molto interessante. C'hanno i dollari disegnati al posto delle pupille, come i cartoni animati. Quindi... sì, sì. A proposito di dollari, comunque, PlayStation 3, io guardando su VJ Charts, ho visto che da quando si è abbassata di prezzo, a parte il botto iniziale di un paio di settimane che ha venduto lo bordello, proprio un bordello, però comunque ogni settimana vende un 120.000-100.000 pezzi in più del 360. Ma finalmente siamo arrivati a un punto dove comunque il predominio 360 inizia a vacillare o... Ma quanti ne deve recuperare per colmare sì, il cap? Perché... Ne deve recuperare sugli 8 milioni. No, sì. Perché c'è anche il problema che c'è un sacco di gente che il 360 ce l'aveva e c'è un sacco di gente che la PS3 non l'aveva presa perché aspettava il taglio, quindi... Sì, è normale, è fisiologico che dopo il taglio di prezzo ci siano tutti quelli che l'aspettavano il taglio di prezzo, quelli che la volevano comunque comprare. Sì, io mi immagino che una buona parte di questi che stanno vendendo, cioè le stanno vendendo a gente che il 360 ce l'ha già, quindi non è che se ne compra un altro, a meno che non gli venga fuori il Red Ring of Death. Però pensavo fosse una cosa di più, cioè tipo un paio di settimane fa il botto, poi ritorna a vendere un cazzo. Invece comunque si è mantenuta più alta del 360, nonostante costi più, è vero che il valore aggiunto è più alto. No, ma poi adesso è un ottimo affare, inizia ad avere i giochi giusti, cioè se vedi Uncharted 2 oggettivamente sì. Su 360 al momento mi dicono che il Modern Warfare sia spettacolare, però quello è molto piattaforma, devo ancora vederlo, esatto. E tra parentesi, guardando VG Charts non ho capito una cosa: perché in Italia non si possono dire i numeri di vendita delle console quando sono pubblicate su un sito? Cioè perché nei vari siti e giornali non dicono mai che 360 ha venduto tot copie, ma dicono solo un po' più in alto della Play 3 eccetera eccetera, quando basta andare su VJ Charts e c'è scritto tutto Italia, Spagna, Francia. Ma potrebbe essere una direttiva dei PR di Microsoft e Sony, cioè è quello che succede con i giornali, basta andare a vedere un giornale americano che ci racconta cosa sta succedendo in Italia, mentre però lì c'è una situazione un po' diversa, politica, diciamo. Anche in questo caso è una situazione politica, credo. Potrebbe essere che Microsoft e Sony non vogliono che vengano rivelati i dati in Italia, poi che qualcuno se li possa andare a vedere tranquillamente su internet è evidente, ma è con tutto il tipo di con tutta l'informazione, insomma. Ma visto che hai citato Uncharted 2, volevo sapere se avete visto la pubblicità raccapricciante che c'è in Italia, non so in Finlandia. Qua in Italia c'è una pubblicità una pubblicità piena di colori, dove sì, praticamente sì, arriva Nathan Drake tutto tagliuzzato come se fosse un fumetto, con delle scene del gioco mischiate Cazzo di cane, si dice. Alla cazzo di cane, esatto. Proprio una cosa orribile, quando mi è venuto in mente il primo spot del primo Gears of War con quella canzone di sottofondo Mad World che... All around me, all familiar. Bravo. Quella canzone. Quella canzone. Ed era impressionante come spot. Le immagini del gioco non c'entravano un cazzo col gioco perché non c'era quella scena nel gioco. Però possibile che anche quello... In Sony si sono fottuti il cervello, che sono stati i draghi del marketing per anni con la Play 1. Io mi ricordo Wipeout, avevano dovuto ritirare il primo Wipeout, una pubblicità in Inghilterra, perché c'era la foto di due ragazzini col sangue che usciva dal naso. Cioè, quello erano avanti. È strano perché la pubblicità internazionale per Uncharted è quella dove c'è il ragazzo che chiede aiuto a chi sta guardando, è rivolto verso la telecamera, perché la sua ragazza non lo lascia stare, che sono due giorni che gioca ad Uncharted e lei crede che sia un film. Non so se l'avete mai visto. C'è sta mega figa che arriva da dietro con un pacchetto di popcorn, fa: amore, ricominciamo a guardare Uncharted 2, e lui fa: vi prego, aiutatemi. Questa mega figa. No, che problemoni che c'hanno. Ma lo stile della pubblicità, questa qua di Uncharted, è quello che è stato preso dopo che è uscita la PS3 Slim. Sì, è sempre quello. Sì, sì, ma pure il cambio proprio di pubblicità, capito? In quel modo fumettosa. È normale, è la pubblicità italiana, fanno le pubblicità brutte per un pubblico brutto. Noi siamo brutto. Cazzo, di come cazzo si chiama con quella voce, quell'attore là. Esatto, sì, lui. Ma non è lui che doppiava Aragorn nel Signore degli Anelli, mi pare proprio di sì, Mi pare sia lui, vabbè. Ma in finlandese lo doppiava, No, non credo. E invece così scartabellando tra un sito e l'altro. Confermo, confermo. Ho fatto una ricerca veloce e confermo. Madonna mia, sì. Era lui. È proprio il doppiatore, non so se è ufficiale, però vedo che ha doppiato in un sacco di film Viggo Mortensen. Okay. Aragorn era lui, scusate. Ah, lui tra l'altro non fa anche stati serie TV in Italia, tipo i Cesaroni, una roba genere. No, no. No, no. Fa qualcos'altro di... Fa il mercante in fiera. Sì, con la tipa di colore fighissima, mamma mia. Vabbè, mamma mia, scusate, non parliamo di queste cose. Tanto, no, allora, così scartabellando tra un sito e l'altro, poi ho visto che in UK hanno aperto la prima clinica per disintossicarsi dei videogiochi. Ma è proprio il caso, nel senso, possibile che non ci sia qualcuno che un ragazzino lo toglie davanti alla televisione dopo 2 ore? Leggevo tempo fa, hanno la stessa cosa in Cina, perché in Cina c'hanno questi problemi con i giochi multiplayer online, e le cliniche sono tipo dei campi di concentramento. Infatti c'era l'articolo, era sul fatto che avevano ucciso dei ragazzi che dovevano disintossicarsi perché gli facevano fare tipo... lavori forzati, spaccare pietre per 12 ore al giorno, così si dimenticavano dei videogiochi. Il problema è che a uno l'hanno ammazzato da quanto gli hanno fatto l'altro a lavorare. Ti diverti a giocare, bastardo! L'hanno messo a costruire 360 nella fabbrica di Qiantong. No, ma davvero, cioè, a parte tutto, è possibile essere dipendente dai videogiochi come tutto il resto, ma come uno dipendente da Facebook, come uno dipendente da qualsiasi cosa che usa per 12 ore al giorno, insomma. Se non c'è un genitore che ti prende a testate, puoi diventare dipendente da qualsiasi cosa. No, vorrei sapere come, cioè, qual è la terapia per farti smettere. Sì, appunto. vuoi smettere pure tu? Ti mettono davanti alla TV. Guardi la TV. Con i teletubbies, così. Ti fanno giocare a lui e poi sono a pasta. Ti passa la voglia per sempre. Esattamente. Ti fanno cercare per sempre un giocatore online a Super Mario Bros. No, scusate, fatemi capire una roba. Questo è un podcast anti-Nintendo? No. Cioè, no, nel senso, non ha bandiera. Perché? Okay. No, così a me è piaciuto Wii Music, per cui figurati. Ma che cazzo stai dicendo? Non so chi tu sia, vattene. Però, sempre per parlare di accessori vari sulle nostre console, visto che fanno già poca roba, come dice il presidente di Square Enix, in UK è arrivato Sky su 360. Voi lo guardereste? Ha senso avere un servizio come Sky su 360 o su una console, comunque, senza parabola, senza nient'altro? Secondo me sì, devo essere sincero. Io non ho la TV da anni, quindi potrebbe essere interessante per me. Come ci giochi ai videogiochi se non hai la TV? No, ho solo uno schermo. Ah. Uno schermo, un Samsung, sarebbe per PC, però ci puoi attaccare tutto. Qua per vedere la TV devi comprarti un decoder e non ce l'ho, quindi... ma poi cioè, veramente, anche quando ero in Italia comunque non la guardavo, quindi lo usavo solo come schermo per guardarmi film DVD e giocare, basta. Quindi per me potrebbe essere una proposta interessante. Non so se la estendano ad altre zone europee, credo di no, perché credo che il mercato sia, forse in Italia, no? Abbiamo detto che in Italia c'era l'ipotesi, però comunque qua c'è il problema della banda, che adesso dipende con come cavolo fanno lo streaming. Non mi sono molto interessato, però non credo che sia l'HD. Qua adesso in Italia c'è una pubblicità immensa di Sky con l'alta definizione, dove ti danno anche il televisore full HD a 20 euro, a 29 euro al mese, cioè ti danno tutto loro, basta, come gli spacciatori, noi ti diamo una roba, tu paghi, quindi probabilmente sarebbe o un controsenso, comunque una zappata sui piedi. Sai, non lo so, cioè, c'è un sacco, per esempio, qua capita molto spesso che c'è proprio una fascia di utenti, gli studenti, la televisione non ce l'ha, quindi, però magari allo schermo del computer potrebbe attaccare una console a uno schermo e risolvere in quel modo. Sì, poi è un casino, perché poi ci sono tutte queste regolamentazioni con i decoder, il canone, quelle cose lì, però perché no? Cioè, avranno fatto i loro conti, evidentemente c'è una fascia di utenti a cui può essere utile. Gianluigi, tu che sei un visionatore di partite e cose del genere? Sai qual è il punto? Se mi fanno 10 euro al mese, posso vedermi tutte le partite che voglio, allora sì, ce l'ha senso. E ti regalano anche una troia, da che ci sei. Però io qua leggo prezzi veramente assurdi. Cioè, tu devi prenderti il gold... E poi devi pagare pure la tariffa mensile, giusto? Sì, sì, sì. Se sei già abbonato a Sky puoi vederlo anche su 360, vabbè. No, ma cioè, non lo so, troppi soldi. Troppi soldi. Cioè, in Italia comunque una cosa del genere, 10 euro e vedi tutte le partite, vince. Sì, sì, beh, anche 20 euro, ecco, la gente che disposta... 20 non lo so, 10 vince. A proposito di soldi, la Sony ha dichiarato che sono state vendute 140 milioni di PlayStation 2, così ha festeggiato questa cosa. L'altro giorno sono andato in un centro commerciale, la vendevano a 79 euro, questa console non finirà mai di vendere, cioè ha una vita... escono praticamente, credo, solo più PS e FIFA e basta, però... c'è ancora gente che la compra. Sì, anche perché al contrario di quello HD, il PES per PS2 è anche bello. E quindi... è vero. Ah, perché no? Poi c'ha un back catalog che è enorme, quindi è solo qualcosa, veramente con PS2 ormai ti porti a casa di tutto con prezzi accettabili. Quindi... però non devi essere un fanatico, cioè devi essere una persona normale che appunto... gioca ai giochini vecchi, dichiamiamoli, sì. Non vuoi il massimo della grafica in alta definizione, eccetera, eccetera. Vabbè, ma poi secondo me una certa fetta di quei 140 milioni è gente che la prende magari un po' come lui, solo per SingStar, sì, o piuttosto sì. che per iToy o robe sì. del genere. Che ma è sempre sì, quello. Sì, ecco, okay. Con SingStar effettivamente se uno vuole fare... una festa e non ha neanche una console, non dico proprio 4 lire, però con una spesa relativamente misera, può mettere sì. su, appunto, prende un paio di SingStar alla console e ha fatto la serata. Insomma. Buzz, c'è anche Buzz. È vero, Io ormai la uso come console di backup, tipo ce l'ho dalla mia ragazza, e quando vado là non so cosa fare, gioco con la PlayStation 2. E io devo sempre giocare il primo Killzone, finirlo anzi, con la PlayStation. Vabbè, vabbè, oh. No, in realtà ci sono un sacco di giochi che puoi giocare, è che una volta che sei passato all'HD cioè dopo che veramente hai giocato a Uncharted 2 o Gears of War, insomma il resto è difficile prenderlo in considerazione. Ce l'ha la casa a mare, ecco, mi sono ricordato da dove l'ho messo. Ho un PES 2000 e qualcosa. Allora, abbiamo finito le news e adesso andiamo alla nostra fantastica rubrica di cosa ci aspettiamo da Estrazione del Lotto. Tra pochissimi giorni uscirà Assassin's Creed 2, finalmente, seguito del pluripremiato, anche se noioso come la morte, Assassin's Creed 1. Secondo voi l'hanno migliorato sotto il punto di vista mi sono rotto i coglioni dopo 3 ore a fare la stessa cosa o no? Sì. Sì? Sì, ma... sì, l'hanno sono convinto. Prima citavo questo episodio di quest'altro podcast dove... il PR di Ubisoft parlava un po' di Assassin's Creed 2, allora ovviamente è il PR, quindi può dire solo cose buone, però a parte che lo conosco è abbastanza affidabile, ma cosa diceva? Che c'è tutta una parte gestionale che non sapevo assolutamente che ci fosse, non so se è un'esclusiva, ma io non l'avevo mai letto. Praticamente c'è la casa del... Sì, c'è la casa del protagonista che si chiama Ezio, se non sbaglio, che si può arredare addirittura, e tipo ti puoi comprare i dipinti, i mobili, queste cose qui, e la popolazione del posto, cioè attorno alla tua dimora, insomma, aumenta la considerazione che ha della tua famiglia e cose del genere. E dopodiché questa cosa delle missioni, che era il problema del primo, che si ripetevano, insomma, è molto più, a quanto pare, molto, sono tutte differenziate, hanno più senso. Ho delle buone sensazioni per questo nuovo episodio. Io credo che aspetterò a prenderlo per il semplice fatto che è un gioco single player, e forse conviene prima andare con giochi che hanno forte componente multiplayer, quando ci giocano tutti, e single player lo posso recuperare anche dopo. Però sono molto curioso, anche perché è ambientato in Italia, quindi sono poi a Venezia, voglio vedere un attimo com'è. Sì, io temo, insomma, dopo aver già visto i doppiaggi atroci che hanno messo nella versione inglese, con veramente, mica comprare, pagare uno stronzo che gli parli normalmente in italiano, veramente troppo difficile. Ma fanno sempre così, cioè ci sono tantissimi film. C'è il doppiaggio italiano completo. Sì, in italiano, tu dici. Tu dici che è bruttissimo il doppiaggio in inglese, con quelle parti italiane. Esatto, io dico che il doppiaggio è tremendo, come anche, come dicevi tu, Andrea. Sì, ma no, c'hanno queste frasi tipo stop now, grullo. Sì, sì. Beh, anche in diversi film, mi viene in mente adesso Missione Impossibile 3, dove c'è la parte girata in Italia, dove Tom Cruise e gli altri parlano italiano, ma mio Dio. Vabbè, ma poi ci sono queste licenze, però... che non so se avete visto l'ultimo... L'ultimo James Bond. Sì. Cioè, praticamente James Bond che va da Siena al lago di Garda. In un secondo. Cinque minuti. In sì. Cinque minuti non si capisce come cazzo faccia. Però vabbè. Poi, cioè, Mission Impossible almeno sono personaggi americani che parlano italiano. La cosa tragica è che quello spesso è ci sono personaggi che dovrebbero essere italiani e sono chiaramente gente presa nei sobborghi di Brooklyn, che non ha la minima idea di cosa sia l'italiano. Di solito vestiti a poliziotti o carabinieri, perché di solito sono loro che parlano italiano malissimo. Comunque, allora lo promuoviamo in attesa dell'uscita del gioco. Sì, sì, sì. Ma una cosa che mi incuriosisce molto è come pensano di fare gli spostamenti fra Venezia e Firenze, per dire. Perché se è come nel primo gioco, per spostarsi da Gerusalemme ad Acri ci vuole 10 minuti di cavallo, che non credo che sia esattamente no, ti danno in scala. Ti danno la Aston Martin James Bond e vai. Prendi il treno. No, da quello che ho capito ci sono delle carrozze anche, quindi io spero che facciano delle elissi narrative, nel senso che io non voglio vedere che posso arrivare da Venezia a Firenze cavalcando 10 minuti, perché veramente non salve signor assassino, vorrebbe prendere questa bella carrozza e ti fanno vedere 20 minuti cavalcare nel nulla per 10 minuti. Se l'avesse fatto Kojima, Assassin's Creed 1 e 2 con 80 minuti di filmato del viaggio. Bene, vabbè, promosso. Invece mi è capitato di vedere il trailer demo, chiamiamolo come cazzo volete, della Formula 1 2009 per il Wii. E io mi chiedo, ma che senso ha? Un gioco... Io già la Formula 1 non la seguo da tempo in memoria. Io la seguo, ma è orribile. Cioè, ma perché Codemaster gli è venuta questa idea malsana di fare un gioco solo per Wii, per PSP? Di merda, perché si vede chiaramente che aspettano l'anno prossimo per tirare fuori. Qua voto zero, secondo me. Guarda, io al Tokyo Game Show, nello stand Sega, c'era un angolo, per me incomprensibile, dove al Tokyo Game Show, ribadisco, c'erano Operation Flashpoint 2, Colin McRae Dirt e Formula 1 2009 per Wii. E non ci giocava nessuno. Ci mancava. Sì. Secondo me non è una brutta scommessa, perché secondo me i giochi per Wii, l'utenza Wii percepisce i giochi come il gioco di tennis, il gioco dove devi dimagrire, il gioco di Formula 1, se ce n'è uno solo fuori sarà quello. Ecco, l'unico forse che sanno come si chiama è FIFA, per esempio, o PES. Ah, sì, però sì, il sì. Gioco di go-kart. Quindi, siccome probabilmente non hanno grande concorrenza su Wii, e fra chi ha comprato Wii probabilmente c'è gente che si guarda la Formula 1 la domenica, magari possono anche vendere qualche copia. Tra l'altro non darei per scontato che sappiano la differenza fra FIFA e PES. Secondo me sono magari il gioco di calcio e il gioco di calcio che costa un po' meno, quindi prendo questo. Comunque questo Formula 1 2009, io ho visto le immagini e farà cacare. Per me no. No, perfetto. E invece qua... Tommaso, fai un po' il ferruccio della situazione, perché Little Big Planet PSP, come vedi questo arrivo su PlayStation Portable? Allora, devo dire la verità che non ho visto un granché. L'unica roba che mi ricordo è quello che ho visto, che hanno mostrato pochissimo alle 3, c'era un filmato di 5 secondi dove si vedeva il Sackboy che saltellava. Io devo dire la verità, ce l'ho Little Big Planet per PS3, è un bel gioco che però non riesce a divertirmi in singolo. E funziona molto bene con più partecipanti, però in singolo lo trovo abbastanza debole. È noioso, diciamo la verità, è noioso in singolo. È un po' noioso purtroppo, sì. Ma invece migliora drasticamente con altre persone. E il problema di questo episodio PSP credo che sia, da quello che ho capito, non si può giocare in più di una persona contemporaneamente, quindi non c'è la creazione dei livelli. Ma, non c'è la creazione dei livelli, non c'è. No, non c'è. C'è un platform normalissimo. Se intendono riproporre la struttura identica da PS3 in singolo solamente, poi ovviamente ridotta in scala per forza di cose, non sono sicurissimo che sia un'idea geniale. Vedremo, però al momento non è che sia proprio eccitatissimo. Come Gran Turismo, no? Che non puoi fare nulla tranne che correre per gare singole. Mamma mia, che orrore. No, però togliere la possibilità a Little Big Planet di creare livelli e ucciderlo. Sì, infatti. Cioè, proprio... un colpo in testa al Sackboy e basta. Sì, più che altro la cosa bella è che la maggior parte degli utenti si limitano a scaricarli i livelli a quelli degli altri. Non so come abbiano intenzione di gestire questa cosa della comunità. Da quello che ho capito i due titoli non sono compatibili, quindi vedremo. Per il momento non è che sia proprio super nell'hype, diciamo. sotto la sufficienza come hype. Andrea, cosa ne pensi? Guarda, non ho giocato quello PS3. Non me ne fotto un cazzo. Esatto. No, vabbè, dai, però va giocato, eh. Sì, no, ma sì, però immaginati quanto mi può interessare quello PSP se ancora devo giocare quello PS3. E invece è un gioco di cui non so nulla, ma nulla, nulla, nulla, è questo Avatar di James Cameron. Fece un anteprima tempo fa io su questo gioco. Ci ho giocato io, se vuoi, posso dire. Che cos'è? Che cos'è? È Lost Planet. Sì, sì, sì. Col 3D. È vero, è identico. Cioè, ma col 3D cosa vuol dire? Vuol dire che se a patto di avere una TV di quelle a 120 Hz, se non sbaglio, sì. quindi una TV, cioè, penso ce ne siano ancora pochi modelli, e soprattutto c'è, cioè, chi si è comprato una TV negli ultimi 2-3 anni, per quale motivo dovrebbe comprarsi una TV nuova solo per questo gioco? A patto di avere quello, è in 3D ed è ottimo l'effetto 3D. Cioè, proprio, e tra l'altro il tipo di gioco è molto adatto, perché comunque c'è il senso di profondità. Gli occhialetti sono esattamente quelli che ti danno al cinema, quelli usi a getta, quelli che ti puoi portare anche a casa. Ho capito. E quindi poi si vede bene in qualsiasi posizione ti metti, rimane l'effetto 3D e funziona bene. Però se quindi scusa, presumo che essendo una cosa che appunto devi avere la televisione apposita, cioè il 3D è un effetto estetico, non ha niente a che fare con il gameplay, perché se metà della gente non può vederlo. No, è semplicemente che è figo da vedere in 3D ed è effettivamente molto figo. Visto in 2D, tra l'altro, la grafica secondo me è abbastanza mediocre. Cioè, giocandolo in 3D è talmente figo l'effetto che non ci fai troppo caso, anzi ti sembra molto bello, ma in 2D non. La tecnologia è la stereoscopia, vero? Scusa, la tecnologia? No, ce ne sono diverse. La stereoscopia 3D. Sì, allora dovrebbe essere con le lenti polarizzate, appunto quello degli occhiali usa e getta, non è la stessa tecnologia di Nvidia con quella attiva, no. Diciamo. No, qua in pratica loro utilizzano il refresh, invece di avere 60 frame al secondo, loro ne fanno 120, sì, 60 sì. In un dato momento del secondo, 60 nell'altro, e l'occhio giusto vede solo il frame giusto, quindi tu vedi alternativamente i due pezzi, come quelli, gli ultimi film 3D. Sì, nei cinema in cui hanno gli occhiali usa e getta, perché poi ci sono anche i cinema in cui hanno gli occhiali quelli strafighi col ricevitore, che però non ti porti a casa. Comunque dico, il film deve essere bellissimo. Il film Avatar. Il film è uscito da poco. James Cameron ci sta lavorando da 10 anni, spero per lui che sia bellissimo, perché il trailer sembra bello. Sì, sembra bello. Andrò a vederlo, non è così conosciuto come vorrebbe lui dopo 10 anni che ci lavora, perché c'è un sacco di gente che non ha la minima idea di cosa sia. Tipo io, però... ha fatto una scommessa con Polifoni per vedere chi usciva prima, se Avatar, il film o Gran Turismo 5, mi sa che vince ancora James Cameron. Sì, la differenza è che Cameron ha dovuto aspettare che ci fosse la tecnologia per farlo, quei Polifoni sono solo stronzi. Poveracci. Va bene, quindi un voto, diciamo un hype abbastanza alto per quanto. Se avessi la TV che mi permette di giocarlo in 3D, avrei molta voglia di averlo. Dovendolo giocare in 2D, sinceramente non me ne frega nulla. È multipiattaforma. Io direi hype alto per il film. Sì, sì. Ho grande fiducia in James Cameron. E poi ci sono i mecha, quindi sono assolutamente d'accordo. Ah, tra l'altro la versione Wii è un gioco completamente diverso, non è in 3D. Che strano. È tipo Space Invader. No, è tipo un gioco in cui usi solo l'alieno e è più picchiaduro. Però c'è il co-op. Perdona, Gianluigi, ma Space Invader Extreme, quello che è uscito su Nintendo DS e PSP, è una figata pazzesca. Volevo solo dirti, se mai avessi, come dire, occasione di giocarci. E vabbè, chiudiamo qui se non c'è altro il cosa ci aspettiamo da, e andiamo nell'angolo di Gianluigi, ovvero ce l'ho con. Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dimmi, con chi credi di parlare tu? Ce l'ho con quei bastardi delle compagnie telefoniche che chiamano praticamente a ogni ora. Perché? Allora, mi è capitato di ricevere due chiamate particolarmente irritanti. Una alle 11:30 di sera da parte di Sky, non lo so che cosa voleva propinarmi questa volta. E un'altra che è stata pure particolarmente maleducato, erano circa le 12:30, mi chiamano, che hanno chiesto di mia madre, e poi si sono accontentati di me dicendomi appunto potevo occuparmi pure io delle chiamate del telefono. Mi dicono, salve, noi siamo di Tiscali, e gli faccio, va bene, scusi, fermati qua perché comunque non mi interessa, non ti faccio perdere altro tempo. Tipo, attimo di silenzio, bello strunzo, e mi chiude. Sì, dico, ma è stato molto, molto gentile. Ma diciamo, in generale io ce l'ho con queste persone qui perché, a parte che non hanno alcuna tipo di competenza sono pure maleducati e soprattutto ti chiamano ad ogni ora, non gliene frega proprio niente, cercano sempre quando ci sarà gente in casa e se ne fregano se sei l'ora di pranzo oppure la sera. Guarda, io sì, no, dicevo, ho lavorato in un call center telecom, quindi vedendo dall'interno com'è il discorso, allora la gente che lavora lì è in genere sono tipo casalinghe che arrotondano la paga del marito facendo alcune ore di chiamate. Molto spesso non hanno le competenze per rispondere alle domande dei clienti. È anche vero che i clienti sono dei begli stronzi, perché succede raramente che un cliente ti tratti bene. Tu stai facendo questo lavoro che è odioso, diciamoci la verità, è odioso sia per chi riceve la telefonata sia per chi la fa, perché ti pagano tendenzialmente a cottimo. Quindi se tu non riesci a piazzare quello che devi piazzare, vai a casa che hai lavorato 5 ore, 6 ore al telefono, ti sta venendo un tumore al cervello per la cornetta che hai tenuto vicino all'orecchio, non hai venduto un cazzo e quindi non hai preso praticamente niente. Se sei culo ti danno la paga base, che è tipo 2 euro all'ora, proprio da schiavo nelle piantagioni di cotone. E, però capita veramente spesso che i clienti ti mandano a fanculo ancora prima che apri la bocca, e lì purtroppo, scusami, cioè, però è proprio il modo di vendere la roba quando mi dicono che non ha senso. Scusami, quando gli dico tipo non mi funziona la connessione e mi dicono ma lei il modem l'ha attaccato al PC? Questo qua mi fa imbestialire una bestia. No, no, ma poi tra l'altro ti dico un segreto, cioè, quando tu fai le domande a questi che chiamano per piazzare la roba, cioè son due uffici diversi, quelli che risolvono i problemi e quelli che ti vendono la roba. Se tu fai una domanda a questo che ti sta cercando di vendere qualcosa, lui cerca di rispondere solo per ingraziarti, ma in realtà tante volte non sanno un cazzo, non possono nemmeno agire sulla tua linea se hai problemi, non puoi fare niente, cioè puoi solo venderti il telefono, venderti il contratto e basta. Quindi è tempo perso. Io per fortuna non ho più il telefono fisso da anni, quindi nessuno mi rompe le palle. Certo, c'è anche da dire che secondo me spesso hanno a che fare con gente che il modem non l'ha effettivamente attaccato al PC. Sì, ma quanto sarà, l'1%? Ma non lo so, guarda, no, che no, se... no, no. Di più. Comunque, sì, un'altra volta invece No, dicevo che le liste che ti mandano sono proprio divise per cliente, cioè tipo cliente stupido che può inculare con questa offerta, cliente un po' più sveglio, così. Quindi se tu chiami quelli nella lista cliente stupido che può inculare, cioè sei veramente a livello Neanderthal, hai presente? Sì, quindi, sì, ma però qua il problema dal punto di vista del cliente è che ricevi, per esempio, a me quando chiama la team sul cellulare, di solito so che mi vuole proporre qualcosa di interessante, cioè io comunque sono abbastanza educato, però quando nel giro di un'ora, la sera, con il pupetto lì che si sta addormentando, mi chiama Sky, Tiscali, è proprio il bombardamento continuo. Oltretutto ho capito che chiedere alle persone, che io mi rendo conto lavorando anche nel settore IT, che queste persone che sono ai call center non hanno nessun potere, cioè sono pagate solo per piazzare qualcosa, come dici tu Tommaso, sono pagate a cottimo, però anche chiedere a loro, guardate per favore toglietemi dalle liste perché non posso ricevere telefonate, voi mi chiamate sempre dopo le 8 di sera eccetera eccetera, tante volte non possono fare nemmeno quello, te lo assicuro, lo so, no, difatti, non puoi fare niente. È capitato con Tele2 che abbiamo chiamato il servizio clienti, l'assistenza clienti, e ci hanno consigliato di fare una trafila un po' lunga, però neanche tanto, mandare un fax, e difatti comunque le cose sono andate meglio. Il problema Tele2, sì. Il problema è che a volte, purtroppo, io capisco che la persona che sta lavorando al call center si è sentito mandare a fanculo 30 volte, però quando ti rispondo no grazie, non mi interessa, con questo tono non ti rispondo vaffanculo stronzo, e tu mi attacchi. No, appunto, a me ha dato un fastidio tremendo, perché proprio la maleducazione, perché io gli ho detto anche per non farti perdere tempo. Vabbè, comunque sono perfettamente... Ma scusate, io vi faccio una domanda e poi penso che si possa chiudere, perché sia forse un attimo OT rispetto all'argomento principale del podcast, ma... Perché avete ancora il telefono fisso? Cioè, c'è un motivo preciso o no? Sì, non ha nessun senso nel 2009. No, perché serve a mia madre per... Sì, sì, mai. Ma sai Tommaso, effettivamente forse più per molte persone è un retaggio storico avere il telefono fisso che altro. Col fatto che... Quando ce l'avevo io avevo la linea telefonica, ma proprio non avevo l'apparecchio telefonico, quindi se volevano chiamarmi... trovavo sempre occupato perché non c'era l'apparecchio, la usavo solo come linea DSL, quindi cioè, fatte così, tanto il cellulare ce l'hanno tutti. Però per esempio, ti faccio un esempio, io, mia nonna non è stata usare solamente il telefono per chiamarmi ha bisogno del telefono fisso. Già, con dire, numeri superiori, con 3, 4, eccetera, eccetera, va in palla. Io in questo periodo sto usando il telefono perché quando stavamo registrando il primo episodio del podcast, proprio a metà podcast, mi ha telefonato Fastweb e mi hanno offerto 2 mesi di telefonate gratis. Ed io ho accettato e quindi sto usando il telefono fisso. Vedi Tommaso. Però devo ricordarmi di disdire, perché sennò poi scatta il pagamento del canone delle... sì, va bene. Peraltro grandissimo OT, ma giusto perché siamo in Italia e volevo condividere con questa cosa con uno che abita in Finlandia. Adesso qua in Italia si sta passando regione per regione al digitale terrestre. In Piemonte cambiano frequenza ogni giorno, ogni 3 giorni praticamente, quindi i miei non vedono più un cazzo, un giorno sì, un giorno no. Comunque la cosa bella è che su MTV ti dicono: ah, dal tal giorno passeremo direttamente sul digitale terrestre, quindi non sarà più visibile MTV sull'analogico. Se vuoi vederci, compra un decoder o un televisore nuovo. Cioè, ma siamo scemi, cioè, devo comprare un televisore nuovo per vedere te, ma sei tu che devi venire a casa mia a darmi... Ma tra l'altro, se io ho una TV che non mi permette di vedere il digitale terrestre e quindi non posso più vedere un cazzo, devo lo stesso pagare il canone? Quella è una bravo, bella domanda, bella domanda. In teoria sì, ma tra l'altro siccome hanno fatto lo stesso passaggio anche qua, solo che si sono resi conto troppo tardi che va contro i loro interessi, perché un sacco di gente nel momento in cui doveva comprarsi il decoder o cambiare televisione semplicemente ha deciso di smettere di guardare la televisione e che sarebbe proprio una rivoluzione culturale non indifferente. Ma vuoi mettere l'Italia, quella televisione fantastica che c'è con Maria De Filippi, il grande fratello no. Guarda, noi siamo stupidi, ma più che stupidi siamo pigri, quindi secondo me ci sarà un sacco di gente che alla prospettiva di doversi comprare un'altra roba diceva: vai in mona, come ma il problema è che molte TV di quelle che vendono ultimamente hanno il decoder di Tetherester, che quel minimo di canali te li fa vedere, no, quindi purtroppo ti entrano lo stesso in casa, sono va dappertutto, bene. Escono dalle fottute pareti, oserei. Oggi per l'angolo della finanza parliamo di iPhone, jailbreak e cosa fare con l'iPhone quando è insomma craccato, diciamo. In realtà craccare l'iPhone per giocare a sgamo alle applicazioni dell'App Store, secondo me, è un po' da pezzenti, perché stiamo parlando di applicazioni che costano 79 centesimi, da 79 centesimi a 9 euro, insomma non ci lamentiamo poi che i giochi costano troppo, io me lo devo scaricare perché 79 centesimi, c'è anche della roba carina, tipo Rock Band iPhone costa adesso mi pare 5,49 euro, l'hanno pure abbassato, quindi non c'è proprio nessun motivo per utilizzare applicazioni copiate, diciamo, o di backup. In realtà quello che volevo dire oggi è che, come capita anche su, come è capitato per Sony con PSP, iPhone ha moltissime funzionalità che però sono bloccate da Apple e possono essere sfruttate solo se appunto si sminchia il telefono o anche l'iPod Touch, o comunque si fa il cosiddetto jailbreak. Secondo voi, cioè, cosa c'è di sbagliato nel fare il jailbreak dell'iPhone se per utilizzare il cosiddetto tethering, ovvero utilizzare il proprio iPhone come modem col PC senza stare sottomessi alle tariffe dei propri gestori telefonici, tipo, perché non so se sapete, ma alcuni gestori tipo Vodafone hanno delle tariffe apposite se tu usi l'iPhone come modem. Se tu usi un altro telefono no, però se tu usi l'iPhone devi sottostare a delle tariffe diverse e ovviamente più incaprettanti che non le altre. Vi sembra corretta questa cosa? Secondo me no. Io devo dire che lì il problema è più di Vodafone. Per esempio io il tethering lo posso usare la versione ufficiale che è uscita dopo l'aggiornamento 3.0, mi pare, del firmware. La posso utilizzare, non pago niente in più. Quindi in realtà non è un problema di Apple, è un problema di Vodafone che vi ruba i soldi sostanzialmente. Però è Apple che gli permette questa cosa. Per esempio io, avendo l'iPhone, come dire, jailbreakato, lo utilizzo principalmente con appunto insomma l'ho fatto apposta per il tethering, per la possibilità di usare delle applicazioni che migliorano le funzionalità del telefono. Ma per esempio il cosiddetto SBS settings, che è una schermatina che riassume nella springboard, praticamente nella dashboard del telefono, tutte le cose che puoi attivare, quindi wifi, GPS, telefono, praticamente tu non devi neanche andare nel menu delle opzioni, tu tiri giù col pollice, ti vengono dei tastoni grossi con scritto wifi, pg e attivi e disattivi wifi, bluetooth, che è una cosa bellissima, velocissima, senza dover stare a girare 37 menu per disattivare il bluetooth, per esempio. O che ne so, lo sharing delle foto del bluetooth, adesso ci sono delle applicazioni gratuite, ma prima non c'erano, che sai che il bluetooth è abbastanza bloccato, no, sull'iPhone. Sì. Io infatti ho un'applicazione a pagamento pagata 79 centesimi, funziona infatti, benissimo infatti, però non è, mi pare sia anche recente quell'applicazione lì, non è... è sviluppata da un ragazzo italiano, si chiama aspetta, mi pare che si chiama Wi-Fi Photo. Ma sarebbe interessante sapere da loro perché alcune funzioni non sono disponibili, se ci sono dei motivi validi oppure se lo fanno solo per fare un dispetto agli utenti. Che lo facciano per fare un dispetto agli utenti, secondo me no. Evidentemente utilizzando quel tipo di funzioni ci sono delle vulnerabilità. Però girare i filmati col telefono, che è una cosa che magari uno fa una volta all'anno, però quando becca la scemata per strada la fa. Cioè l'iPhone, quello normale, il 3G, li fa tranquillamente i filmati. Perché devi comprarti 700 euro di telefono in più per fare i filmati? Cioè è questo che non capisco. Avere delle funzionalità che il telefono può fare native e averle bloccate apposta, secondo me è tipo, che ne so, l'aggiornamento di PES annuale, ti diamo un telefono l'anno dopo con, ah cacchio, fa anche i filmati, peccato che li poteva fare anche quello che hai tu, però te ne compri uno nuovo perché noi siamo, cioè noi dobbiamo fare i soldi, io la vedo così. Sta cosa delle funzioni aggiuntive può essere legittima, per esempio questa cosa dei filmati che dici, effettivamente è un po' un mistero come mai non si possa fare. È un po' la cosa che ha anche Apple, perché per dire, ho installato Snow Leopard quando è uscito e ci sono delle funzioni segrete. Che senso ha fare un sistema operativo con le funzioni segrete? Per scoprirle devi andare in giro per i forum. Sì, tipo, cioè, ma una funzione che è una minchiata, no? Hai l'icona di una cartella, esiste un settaggio segreto, se tu lo attivi sostanzialmente la cartella diventa trasparente e ti fa vedere in trasparenza le pagine degli articoli che hai dentro. Per esempio, se hai dei documenti Word, li vedi tutti messi tipo mazzo di carte aperto, insomma, per farvi capire, e vedi a colpo d'occhio che documenti ci sono all'interno. Ora, questa cosa qua di base non si può settare. No, non riesco a capire perché non... O lo fanno per far andare la gente nei forum e leggere roba a proposito del sistema operativo tutto il tempo, oppure evidentemente sono delle funzioni che ci sono, però... magari non funzionano esattamente come dovrebbero e quindi le tengono solo per chi vuole fare tuning, diciamo, del sistema operativo o del firmware o di quello che è. E poi con una release più stabile, tu dici, le fanno pubbliche dicendo che da ora si può fare questa cosa perché funziona perfettamente, non ha bachi. Mi sembra l'unica spiegazione sensata, non vedo perché dovresti nascondere una funzione così innocua, tutto sommato. Sì, no, ma per esempio c'è anche Firefox, esistono dei settaggi, se tu li metti, sono riga di comando, va molto più veloce. Perché non te lo fanno fare di base? Perché ogni tanto crasha se tu metti questi settaggi, ogni tanto c'ha dei crash random, quindi evidentemente sono delle cose che funzionano il 99% delle volte, ma a volte no. Non è che Firefox non crashi mai già per i fatti suoi, per cui... Sì, no, per quello, magari per evitare di renderlo più instabile, in teoria funziona, in pratica ha ancora qualche problema e se lo tengono per una release successiva in maniera ufficiale. È più interessante sapere perché la gente pirata i giochi che costano 79 centesimi. Questa è una bella domanda. Ma sì. Perché è così, è semplice, perché la gente neanche un centesimo ti spenderebbe per... Sì, ma 79 centesimi, cioè meno di un caffè. Sì, ma se tu pensi al tempo che perdi ad andarti a cercare, non so nemmeno come si scarichino le applicazioni dell'iPhone. Però è una questione di principio, credo. Esatto, è paradossale, perché cioè, il principio dovrebbe essere il fatto di essere... No, allora, però è una questione di principio, posso averlo gratis, vaffanculo, lo voglio avere gratis. Sì, se tu spendi anche solo 10 minuti per avere un'applicazione da 79 centesimi, gratuitamente, vuol dire che dai veramente veramente poco valore al tuo tempo, perché se tu valuti il tuo tempo, che non puoi spendere 79 centesimi per risparmiare 10 minuti della tua vita quando sarai nel letto di morte, secondo me li rimpiangerai amaramente. Ma non solo, perché tu l'applicazione la compri e la figata è che è aggiornata, cioè che il produttore l'aggiorna continuamente quando c'è qualche cacchiata nuova ed è sempre gratis dopo. Cioè, mentre se tu la scarichi a sgamo, poi ogni volta devi riperdere 10 minuti per fare la stessa trafila. Ma chi il concetto è che comunque quei 10 minuti, cioè, è sì, gratis, però... questo è il punto, dai. Però allora, scusa, facciamo due conti, no? Tu risparmi, sì, perdi 10 minuti di vita e risparmi 79 centesimi. Poi, poi attenzione, l'applicazione si aggiorna 4 volte, vuol dire che in totale hai perso 40 minuti... E quindi vuol dire che tu valuti 40 minuti della tua vita a 3,50 euro. Cioè... No, sempre 79 centesimi, perché in teoria l'avresti pagata una volta sola. Ancora peggio. Tu... Ah, ecco, esatto, esatto. Sì, giusto, scusa. Sì, quindi cioè, non ha senso nel lungo periodo. Io inizio a dare molto valore al mio tempo. Sì, sono assolutamente d'accordo. Io penso che le cose che si meritano il mio tempo, che è preziosissimo, sono solo le cose che si meritano anche i miei soldi. Cioè, è come quando tu per risparmiare 10 euro sulla spesa ti fai 2 ore di macchina per andare al centro commerciale. Allora vuol dire che tu valuti 1 ora della tua vita valore 5 euro. Cioè, non ha senso fare tutta questa cosa qua. Secondo me il tempo è proprio il bene più prezioso che la gente dovrebbe avere. Bene, e allora arriviamo al fantastico mondo dei giochi giocati. Qualify. Tu, Tommaso, hai qualche gioco da dirci o no? Ma allora ho della roba che è in fase di svisceramento per recensioni su Babel, poi ne parlerò meglio su Rincast, ma Uncharted 2, se qualcuno ha sentito il nostro episodio scorso, mi è esplosa la PlayStation 3, sì, quindi ho giocato 5 capitoli, dovrebbe tornarmi spero lunedì la PlayStation. Ma abbiamo Gianluigi che ce lo sviscererà ben bene adesso. Quindi non ho molto da dire su quello. Poi sto giocando a The Ballad of Gay Tony, Brutal Legend mi è arrivato ieri. Ci sarebbe anche l'espansione di Magic, ma sono troppo sega e devo ancora sbloccare un sacco di carte di quella base e l'espansione è molto più difficile, quindi non riesco proprio a passare nemmeno il primo stage. No, dico, finché non finisco un po' meglio la campagna base non posso giocare all'espansione, però intanto ce l'ho, come solito. Dico, sapete se è confermato che arriverà pure su PS3? No, su PS3 esce Magic Tactics, che è una roba diversa. Okay. Sì, sempre The Wizard of the Coast, però è un gioco diverso, non so bene come sia. Okay. Adesso, domanda velocissima, dovessi prendere la versione scatolata delle due espansioni di GTA o Brutal Legend, su cosa spendi i soldi? Tra i due? Sì. The Lost and Damned è bellissimo, e questo The Ballad of Gay Tony è altrettanto bello. Secondo me è forse anche migliore come personaggio e come scrittura. E ha il problema che secondo me a questo punto i comandi di GTA sono veramente pesanti, cioè c'ha delle robe che non sono indigeribili, e per esempio ci sono diverse missioni sull'elicottero, sono assolutamente incapace di portarle a termine. L'altro giorno sono riuscito a farla tutta, perché l'elicottero è proprio difficile da comandare, va sempre per i cazzi suoi, a un certo punto bisogna sparare a degli altri elicotteri in aria, un casino. Finalmente ce la faccio dopo un po' di tentativi, e poi bisogna riportare sto cazzo di elicottero al punto di atterraggio, e allora per atterrare mi devia su un lato, alla fine le pale si incastrano in un palo e esplode tutto a un secondo dalla fine. Cioè, queste situazioni qua sono troppo frustranti. Le bestemmie volano come... No, una cosa che si nota in questo episodio, a parte che è sboccatissimo, e se la gente si era scandalizzata per il pisellino che si vedeva in The Lost and Damned, questo qui è proprio 10 volte più pesante. Cioè, proprio la gente scopa, sniffa coca, ma proprio dall'inizio, immediatamente, scopi una in bagno, proprio subito. Ma dai, è ora che ci siano questi contenuti, dai. No, è ora, e tra l'altro la cosa interessante è che è scritto talmente bene che non sono nemmeno fuori posto, nel senso che li vedi e dici, beh, è come in un film. Sì, invece, sì, in molti altri casi, nei videogiochi, li vedi e dici, ma che cazzo state facendo, ma non vi rendete conto di essere ridicoli. Invece in questo caso il contesto è molto, molto sensato. Dipende sempre dal contesto, dico, se è ben integrato non vedo che... Sì, però questo qua veramente è un gioco che non dovrebbe finire in mano ai bambini, perché è proprio pesante. E purtroppo ci finirà, quello è il problema. Ci finirà. Comunque è scritto benissimo, secondo me inizia il gameplay di GTA, mostra la corda rispetto alla qualità del contorno. Cioè, il personaggio che c'è in questo qua, Luis Lopez, è un personaggio che secondo me, per come si vede nelle cutscene, nei dialoghi, eccetera, non è uno che prende un elicottero, va sopra New York, fa esplodere altri tre, poi va in giro, uccide... Cioè, nella prima ora di non, forse non nella prima ora, tipo le prime 3 ore di gioco ho ucciso 100 persone. No, non ha senso, perché il personaggio... come lo presentano, non è uno che va in giro a uccidere 100 persone. Poteva esserlo Nico, poteva esserlo anche, come si chiamava, Johnny Clevis, quello di Lesson, sì. Che anche lui, che comunque non era uno che secondo me doveva fare genocidi, però questo qua, Luis Lopez, proprio non è uno che va in giro a uccidere 100 persone. E il gameplay non è più adatto al tipo di storia che vogliono raccontare, quindi secondo me i seguiti saranno, devono essere diversi. È tempo di rinnovarsi. No, è tempo di rinnovare anche il nome, cioè sta cosa di rubare le macchine non è più, non è più il centro del gioco, è chiaramente... è difficile però cambiare nome, come fai a staccarti da quel marchio? Sì, però non riflette più il gioco. Mi rendo conto che lo terranno per questioni storiche, ah, però... Fai come però se vogliamo, già GTA 4 è abbastanza diverso da quelli precedenti come immaginario, insomma, mi sembra, sì, molto... è molto più realistico da un certo punto di vista. No, è vero, ma per dire, questo personaggio che c'è adesso, secondo me, il fatto che rubi le macchine non ha senso, perché è una persona che, secondo me, non dovrebbe rubare le macchine. È anche il problema, secondo me, che più tendi a fare una storia, un'ambientazione, un contesto dai toni realistici, e più poi stridono le cose, certo, più da videogioco. No, ecco, la cosa bella è che una volta che capisci com'è il personaggio, io cerco di farlo comportare come secondo me dovrebbe comportarsi, quindi al posto di rubare la macchina prendo sempre il taxi, perché tu che gli dai un'etica, diciamo. Sì, però il fatto che si possa fare, secondo me, non ha senso. Cioè, lui dovrebbe rifiutarsi, il personaggio dovrebbe dirti no, quel cazzo che rubo la macchina. Perché non sono un pezzente barbone come te, che hai scaricato questo gioco col torrent. Da 79 centesimi, però. Ok, Gianluigi, tu sì, di cosa ci parli oggi? Uncharted 2? Allora, penso che sia il gioco forse più bello che abbia mai visto, dal punto di vista sia grafico, pure narrativo, perché sentivo la volta scorsa Vito che aveva qualcosa da ridire sui dialoghi, che invece secondo me sono stati veramente, cioè, sono veramente perfetti. Cioè, il doppiaggio per me è un gioco importante, in questo Uncharted 2, non so se concordi, Davide, è ben fatto veramente, cioè. Sì, è proprio ben fatto, anche nelle fasi cazzone, è volutamente cazzone, non so come... State giocando in italiano? Sì. No, ma è fatto bene in italiano. Poi, come dicevi tu, Tommaso, apparentemente non c'è un attimo del gioco dove non ci siano dialoghi, anche andando avanti, cioè, nell'avventura. Ma è una cosa comune, perché anche in The Ballad of Gay Tony non c'è un minuto dove la gente non parla, e Brutal Legend in maniera minore. Mi sembra una cosa che sta prendendo sempre più piede, ed è positivissimo perché aiuta molto l'empatia con i personaggi. Sì. Dico, la durata è giusta. Non si dilunga troppo, tranne forse la parte finale, senza fare spoiler, però eravamo d'accordo pure con Davide che forse è un po' forzata. C'è qualche pezzo nel finale che forse potrebbe far storcere il naso a qualcuno, però insomma... Sì, comunque in generale... Il gioco è stretto. L'online, che era forse la parte su cui più persone avevano qualche dubbio, io lo trovo che funzioni benissimo, a parte il matchmaking. Che è lungo come la morte. È lungo, e poi soprattutto tu non puoi ritrovarti in un gruppo ad avere, cioè, 5 persone contro 5. Nei 2-5 ci sono due livelli 1 contro nell'altro gruppo 4-40. Cioè, non ha senso, perché già in quel modo è persa la partita. E qua dovrebbero imparare un po' da Bungie per il matchmaking. Che sicuramente... Dovrebbero fare delle categorie tipo 1-10, 10-20, 30. Sì. Cioè, così non ha senso, perché io veramente... Sono ispirati a Gears of War 2. Di fatti. Guarda, che veramente mi sono ritrovato in delle partite in cui non ha neanche senso andare. Però a livello tecnico, mai lag, mai un cazzo. No, perfetto. Sì. Però, per esempio, in questa cosa qui dei livelli si vede particolarmente tipo nelle guerre di campo. Cioè, dove devi conquistare delle zone e mantenerle. Cioè, con i livelli 1 che non sanno veramente dove devono andare, se ne vanno così a caso e perdi subito in 5 secondi. Quindi dovrebbe rivedere questa cosa qui in una futura patch. Concordo. Se posso dire, la cosa che mi è piaciuta tanto è il fatto che tu hai sempre l'impressione che capiti tu. Cioè, mentre in un Call of Duty le parti scriptate le noti, perché tu entri in una casa, compaiono 100 persone, mentre prima non c'era nessuno. Qua invece è fatto talmente tutto con classe che non ti accorgi quasi che... Tutto è una bellissima costruzione scenografica, no? Perché tantissime volte tu rischi di morire, pensi di rischiare di morire, ma in realtà non c'è nessun pericolo. Però è fatto talmente bene che ti emoziona la cosa. È proprio... Dal punto di vista cinematografico del gioco, penso sia perfetto. Poi? Football Manager 2010, Perché comunque più o meno è sempre la solita cosa di ogni anno, sempre un database gigantesco. Hanno migliorato la grafica a livello di interfaccia, diciamo. Cioè, una persona abituata a Football Manager negli anni forse si trova all'inizio un pochettino spaesato, poi comunque riesce a fare abbastanza, cioè riesce a prendere la mano. Quello che ancora non va è la partita in 3D, che è veramente disastrosa ancora. Infatti l'ho vista solamente una partita e poi sono passato al classico 2D. Niente, comunque, ma ho provato pure online. Secondo me non è un gioco forse che funziona molto online, perché... Cosa fai? Campionati online? Sì, con un amico puoi farlo. Ah. Però secondo me non è una cosa che funziona, perché è un gioco su cui magari per una giornata, per un giorno, che ne so, mercoledì 12 settembre, ti devi stare là due ore per, non so, cercare nuovi giocatori, vedere le tattiche, cose del genere. Non è che puoi aspettare, cioè, il tuo amico non è che può aspettare i due comodi. Infatti c'era il mio amico, mentre giocavamo sul Messenger, mi scriveva: muoviti, muoviti, muoviti. Bene. Andrea? Allora, sì, io ho ben tre giochi addirittura di cui parlare. Sei, non fare sorpreso che te li ho detti. Oh. Allora, il primo è Brutal Legend, che mi sono giocato questa settimana che c'avevo la Suina. No, non fare spoiler che io... No, no, tranquillo, non faccio nessun tipo di spoiler sulla trama. Cioè voi in Rincast spoilerate la fine dei film al primo minuto di podcast. Vabbè, però sono film tipo La Spina di Seven, cazzo, che è un film del 1992, se non l'hai visto è ora che lo vedi, insomma. E alla fine in Brutal Legend muore quello, no? Muoiono tutti in Brutal Legend, soprattutto muore il figlio. Allora... no, niente, allora Brutal Legend mi ha sorpreso su un paio di aspetti, nel senso che l'ho trovato molto, molto rifinito, curato, rispetto a Psychonauts, che secondo me era molto rozzo. Questo, vabbè, non è il super titolone alla, non lo so, alla Gears of War 2, dove sembra tutto fatto a puntino, però insomma è fatto bene, mi ha colpito, anche se magari gli manca un po' di forza. Cioè Psychonauts magari era più rozzo, aveva un sacco di difetti, però c'aveva una carica, delle idee, qualcosa. Sai che secondo me invece il problema, da quello che ho visto fino adesso, è che non è rifinito, perché con titolo rifinito io penso a tipo Uncharted, che vabbè, chiaramente quello è un altro, probabilmente avevano anche un altro budget, ma sì, sì, che sì. Non c'è sconnessione fra una cutscene e il gioco. Invece ti capita in Brutal Legend, tu stai giocando con la macchina, fai il salto della rampa, poi c'è un minuto di caricamento, no, magari un minuto di caricamento. No, beh, quello, però lì sono limiti tecnici, forse, anche proprio di capacità della gente che lavora con Tim Schafer, non lo so. Sì, ci sono molte, molte pause fra una fase di gameplay e una cutscene. Sì. È un po' cattoso, non nel senso che scatta mentre giochi, ma scatta fra una fase del gioco e l'altra. Cioè, ci sono questi movimenti che tipo alla fine di una cutscene c'è Eddie in una certa posizione, tu ricominci e lui è completamente in un'altra. È vero, è vero, no, quello è vero, però cioè, nel senso, il mio discorso è più che in Psychonauts, perlomeno a me succedevano cose tipo mi incastravo nella piattaforma o pezzi frustranti perché secondo me erano proprio fatti male. Questa cosa non l'ho vista molto in Brutal Legend, mi sembra più curato. No, poi in realtà la cosa che mi ha stupito è che io mi aspettavo fosse un picchiaduro, cioè God of War, mentre in realtà lo è praticamente solo all'inizio e alla fine, e per il resto la componente di picchiaduro è abbastanza accessoria, cioè lo puoi fare ma puoi anche non farlo. È più quella specie di RTS strano in cui puoi anche metterti a combattere ma puoi anche non farlo per niente, puoi combattere sulla macchina, puoi fare varie cose, e questa cosa cioè non me l'aspettavo più che altro, sinceramente. E anzi, è quasi più importante la macchina della parte di guida, delle parti picchiaduro, perché ti serve per spostarti da un'ambientazione all'altra. L'hanno promosso in una maniera veramente strana, hanno fatto credere a tutti sì. Che fosse un picchiaduro, invece non è un picchiaduro. È anche vero che se lo pubblicizzavano come RTS poi era un messaggio sbagliato, perché non è un vero RTS. E poi non se ne inculava nessuno. No, infatti. Però secondo me l'hanno criticato un po' troppo come RTS, perché è vero che è una cosa semplice, molto arcade, particolare, però io l'ho trovato abbastanza divertente in quell'ottica. Per preso come quello che non è Command & Conquer, ovviamente, e mi sono divertito. C'ha il problema che dura un po' poco, cioè se non ti fai prendere dall'esplorazione, il free roaming e via dicendo, ma fai solo le missioni principali, l'ho finito credo in 6 ore, che insomma... Ecco, ti volevo chiedere questo. È pochino, però ripeto, è un po' la solita questione, nel senso che per dire, si può dire lo stesso di Arkham Asylum, però a me Arkham Asylum hanno preso le missioni extra e l'ho finito al 100% e mi è durato in realtà molto di più. No, c'è da dire che la parte sostanziosa del gioco in realtà credo sia il multiplayer, perché l'ho provato ieri, però ho provato contro l'intelligenza artificiale perché ancora non conosco tutte le truppe, quindi non sapevo bene come gestirmele. Però c'è tutta la parte multiplayer che è praticamente RTS, tu contro un altro, e quella parte lì mi sembra abbastanza polposa, no? Sì, sì, ma sicuramente, cioè, ripeto, siamo lì, se ti prende dal punto di vista del multiplayer o dell'esplorare e fare tutte le missioni, che cioè molte sono le solite cose, fai la gara, mena quello, alcune sono anche carine, probabilmente ti dura tanto. Se, come è successo a me, vuoi solo seguire la storia e vederla fine, è effettivamente breve, anche se secondo me c'è un bel senso di progressione, cioè mi ha soddisfatto, non è che è finito, ho detto cazzo è già finito, ci stava bene insomma come inizio, sviluppo e conclusione della storia. Resta il fatto che sono 6 ore e se non ti fai prendere dagli altri aspetti sono vale il prezzo pieno. Ripeto, cioè il problema è che non lo puoi sapere a prescindere, lo vale se lo giochi in multiplayer, se stai lì a girarti l'ambientazione, perché poi l'ambientazione è effettivamente molto bella. Ci sono un sacco di cose divertenti. Ah, guarda, secondo me li vale soprattutto se riesci a cogliere le citazioni, e cioè, sono sicuro che c'è un sacco di gente che non le coglie, però sì, io le colgo e quindi mi diverto il doppio. Però io heavy metal, hard rock così lo conosco in maniera superficiale, conosco molte canzoni, però a livello di cultura sicuramente mi perdo un sacco di no di ma cioè anche solo il nome delle locazioni o il nome che danno agli eserciti o i personaggi che c'hanno sti cognomi, per esempio due tizi, Lars Alford sì. E sua sorella, uno è, cioè hanno messo insieme il nome del cantante di Metallica col cognome dell'ex cantante di Judas Priest, forse adesso è ancora tornato. Quindi cioè, sono cose che se hai seguito, insomma, non sono aggiornatissimo, però è molto anni 80, quindi quella roba là me la ricordo più o meno. Cioè se c'è quella roba lì è divertente, cioè anche la tracklist è fantastica per un gioco del genere. Se non ti piace l'heavy metal ovviamente potrebbe darti fastidio. No, però è chiaro. Tra l'altro la cosa, ci sono un sacco di trovate carine, tipo il fatto che hai l'autoradio in macchina e se tieni premuto a sinistra sul pad direzionale ascolti la canzone all'indietro. Sì, non lo sapevo. Tipo messaggio satanico. No, poi anche i personaggi, c'è Ozzy che è il Guardian of Metal, oppure Lemmy che fa quello che ti cura con la tela di ragno. È pieno di cose diverse. Ma poi la cosa bella è che tutto questo discorso di presa per il culo lo fa sia sul heavy metal, sia sugli stereotipi dei videogiochi. Però lo fa in maniera simpatica, cioè si vede che prende in giro qualcosa che ama, che gli piace molto, e quindi è divertente poi alla fine. Bene, poi c'è iPad. Questo mi interessa. Allora, iPad, per chi non ha idea di cosa sia, è una specie di Nintendogs, in cui però invece che un dalmata, un labrador, hai a che fare con questa strana creatura che è un po' scimmia, un po' cane, un po' ministro brunetta, e praticamente si gioca col PlayStation Eye, che è incluso nella confezione, anche se suppongo sia venduto anche senza, visto che è una roba che già era in giro col giochino delle carte, che adesso non mi ricordo come si chiama. Prezzo consigliato? Sai che non ne ho idea, non sono andato a vedere, penso sia il solito. Quindi l'iToy ti viene gratis, più o meno. Penso costi come costava Eye of Judgment, però... Mi pare che con l'iToy, se non dico una stronzata, costi 49 euro, O 49, non vorrei dire una stronzata. Perché... Guarda, aspetta, l'ho trovato, allora costa 29 da solo e 49 con la telecamera. Accettabile. Sì, infatti, e devo dire che funziona bene, anche se c'ha dei limiti. Intanto il fatto che la videocamera è in bassa risoluzione e quindi tu comunque sullo schermo vedi te e la tua stanza bruttissimo in mezzo a un mondo e con un personaggio in HD, insomma questa cosa cozza un po', anche se immagino i bambini non gliene freghi niente, però è un po' un peccato. E poi c'è il problema che lui prende le misure della stanza, la stanza la devi preparare come dice lui, per cui devi spostare oggetti, deve essere tutto libero davanti alla TV, e lui si prende le sue misure e poi non tiene conto di eventuali ostacoli o dislivelli, per cui vedi l'animaletto che cammina attorno alle, cioè dentro le cose, però vabbè, insomma è normale. Però funziona bene, c'è questa specie di carta magica, si chiama, che utilizzi per interagire, tu gliela fai vedere, lui la usa per capire dove deve mettere l'animaletto, e poi praticamente la tieni in mano e diventa un oggetto che usi, che può essere una scatola di biscotti, robe con cui interagisci, puoi fare una marea di cose, accarezzarla, giocarci. Ma è vero che c'è un algoritmo che riconosce i peni sui disegni? Allora, tu quello che disegni glielo fai vedere e poi la creatura lo disegna, e poi c'è una fase in cui alcune cose che disegni diventano addirittura oggetti, e io per dire c'era un punto in cui c'era da disegnare, lui ti fa vedere come cosa dovresti disegnare, però poi lui riprende quello che tu disegni, per dire c'è l'elefante, io ho disegnato l'elefante, ci ho messo anche il cazzetto e la bestiolina ha disegnato l'elefante col cazzetto. Ho capito, perché io ho visto il video, nel senso che tu disegni una macchina, poi lui la fa diventare viva, e la macchinina va in giro, ma lui come fa a sapere che tu hai disegnato una macchina e non una trivella sotterranea? Perché sono due cose un po' separate, nel senso che c'è la parte in cui lo fai semplicemente disegnare e lì puoi fare veramente quello che ti pare. La parte in cui devi creare gli oggetti, chiaramente tu devi cercare di fare quello che lui ti chiede, cioè tipo adesso creiamo l'oggetto macchina e quindi tu gli fai una macchina, e tra l'altro se la fai male, che magari vengono male i contorni o cose del genere, diventa un oggetto fragilissimo che magari si muove male o cose del genere, è un po' limitato ovviamente in quel senso. Però, insomma, è carino il fatto che qualsiasi cosa disegni lui comunque la replichi e non sia totalmente guidata questa cosa. Dopodiché, vabbè, ci sono 50.000 sfide, trofei da sbloccare, però è ovvio che è una roba per bambini e che ma io... Cosa puoi fargli fare sostanzialmente a sto animale? Ci sono le cose proprio base, nel senso lo puoi accarezzare, lui si mette a cuccia, si addormenta, piuttosto che lo fai giocare, muovi le mani e lui ti insegue, tenta di catturarle. E poi ci sono vari giochini, per esempio, non lo so, ci sono quando usi la carta e come oggetto è una scatola di biscotti, gli puoi dare i biscotti, li lanci, li prende al volo, piuttosto che c'è il tappeto elastico e lo fai saltare, sono cagatine, sono proprio attività penso per bambini. Poi puoi fare, c'è tutto l'editor per fargli le pettinature, i vestiti, i colori, questo genere di cosa qua. Però è sicuramente uno degli esempi migliori per l'iToy, perché... Sì, no, poi ribadisco, con dei limiti funziona molto bene, insomma, penso che per i bambini sia divertente. Io ovviamente mi ci diverto un paio d'ore, poi mi sono rotto le balle. Se poi ti stanno sul cazzo le creaturine buffettose, probabilmente neanche due ore ti ci diverti. Le puoi uccidere? Purtroppo no. Ma appunto, se tipo lo picchi, che fa? No, non lo picchi. Non lo picchi, cioè nel senso vede la mano che si muove e tenta di giocarci, ma non rileva il fatto che gli stai tirando un ceffone. Non so se avete mai giocato a Black and White. Sì. Io mi divertivo a picchiare la creatura, che era una cosa meravigliosa. Questo la dice lunga sui videogiocatori, no? Assolutamente sì. Esatto. Vabbè, io ho un cane vero e mi vanto. E picchi anche il cane vero. Ti diverti a picchiarlo. A bastonate. Ti mando Greenpeace a casa, se no. Bene. Beh, molto carino però, mi piace, cioè sì. Mi è mai interessato vedere i filmati. Adesso te lo comprerai con la scusa che lo compri per il bambino. Ovviamente, ma ora che avere un figlio maschio è una gran figata sotto questo punto di vista. Se tuo figlio si incazzerà perché voleva Gears of War 2. No, sa 10 mesi e mezzo. Beh, forse sono un po' pochi però per farlo giocare, perché poi non capisce perché non funziona quando magari muove la mano e quello non lo segue, cose del genere. O si mangia lei toy. Va bene, e poi c'è... Halo 3, io ho chiesto a Davide se era il caso, lui dice, oh sì, parla neanche se vecchio, va bene, perché, cioè ne parlo perché l'ho finito di giocare adesso, l'ho giocato, io c'ho questa cosa che spesso gioco roba vecchia, e anche molto più vecchia di questa, tra l'altro, e tra l'altro il bello di Halo 3 è che appunto è vecchio, quindi immagino non gli freghi più niente a nessuno, ma non è ancora retro gaming, anche se a giocarci, a guardarlo, sembra un po' retro gaming, perché fa veramente schifo da vedere. Io penso sia, fra i giochi, diciamo, d'altro profilo, quelli AAA, per dire, sia uno dei più brutti che abbia mai visto da vedere. Però... l'hai giocato 2 anni e mezzo dopo, 2 anni. Quello, dopo. Sì, ho capito, però nel senso, Gears of War 2 adesso non mi fa questo effetto brutto, ma neanche Gears of War 1. No, allora, Gears of War è invecchiato molto meglio di Halo, sono d'accordo con te. Ma proprio sicuramente c'ha dei belli effetti, adesso io non sono un esperto di grafica, c'ha sicuramente belli effetti di luce, cose del genere, però proprio pochi poligoni, poi anche stilisticamente non mi piace per niente, indeciso, non si capisce se vuole essere caricaturale o serio. Cioè non ti hanno esaltato queste battaglie, perché a me Halo piace, mi hanno esaltato queste battaglie con decine di persone da una parte all'altra, le navi stellari, gli che mi ha esaltato molto è stato il primo incontro con uno Scarab. Quando arrivi c'è questa cosa enorme che si può combattere in più modi diversi, ci sono i vari soldati che ti aiutano, quello secondo me è Halo proprio al suo meglio. Sono d'accordo con te. Il problema è che la terza volta che combatti lo Scarab io mi sono un po' rotto le palle. Erano 3 Scarab. No, perché è anche bella la progressione, che la prima volta è questa roba enorme che sembra quasi imbattibile e la terza volta quasi ci combatti ad armi pari perché sei con l'elicottero, sono due. Però veramente, cioè, mettimi un altro boss gigante, ma lì è proprio il problema di Halo del copia e incolla, anche il fatto degli interni che ti fai queste basi 4 piani tutti uguali e oltretutto una volta che li hai fatti tutti e 4 ti dici anche che devi tornare indietro e rifarteli. Quello purtroppo è un problema di Halo, proprio il gameplay di Halo, dello design di quegli altri che sanno fare purtroppo, come dicevamo l'altra volta in ODST per esempio, è tutto molto peggio ancora perché sono tutti interni o città e loro non sono proprio capaci. Una cosa che mi è piaciuto di graficamente sono i Flood, come cavolo si chiamano, Ma no, nel senso, perché io me li ricordavo in Halo 2, che era questa roba, cioè queste macchiette di texture brutte, e quantomeno hanno un po' di pustole di cose, poi vabbè, siamo sempre nell'ambito di un gioco con una grafica che non mi piace per niente. Detto questo, un altro mio problema con Halo è la storia. Cioè, il bello di Halo 1 è che non c'era la storia, era atmosfera e basta, cioè succedevano cose così un po'. Poi col 2 hanno detto, ah, facciamo questa space opera fighissima, piena di avvenimenti che non hanno alcun senso e di dialoghi brutti. Quindi secondo te non avevano pianificato la storia dall'inizio? Secondo me è la classica cosa in cui dicono, sì, se andiamo avanti più o meno la storia è questa, però poi l'hanno veramente messa in piedi col secondo, cioè è ovvio che c'erano delle idee, però il mondo Lost. Crearlo poi. Ma sì, ma come succede sempre, anche perché non lo sai se farai gli altri seguiti. Almeno questa è la mia impressione. Il problema è che l'ho trovato proprio brutto raccontato, sto umorismo pessimo. L'unica cosa carina secondo me che c'era in Halo 2 a livello di storia, che era l'Arbiter e anche un po' il rapporto che ci aveva con Master Chief, che si beccavano, cioè in Halo 3 è come se non ci fosse l'Arbiter, non fa un cazzo. Sì, meno male. Nel secondo, scusate, l'Arbiter gli avrei sparato in testa. Scusate, vorrei interrompervi un attimo perché sono sulla pagina Facebook di Gianluigi e vedo che proprio il primo post è Gianluigi ha parlato con la vicina porca che ha detto questa sera do una festa da me, se vieni saremo io e te, fragole e champagne. Parla anche tu con la vicina porca. Parla anche tu con la vicina porca. Vuoi spiegarci qualcosa, Gianluigi? Dici chi è questa simpatica signorina. Magari guarda. Ci passa. Parla pure tu, vedi cosa ti dici. Vabbè, adesso parlo anch'io con la tua vicina, vediamo cos'è. Secondo me parla poco la vicina porca, ma però già la salunga. Lunghissima. Vabbè, comunque è bello, cioè, nonostante tutte queste critiche alla fine mi ci sono divertito, perché poi da giocare è bello e divertente. Poi l'ho giocato a leggendario in cooperativa, che è un po' barare perché in cooperativa c'è il respawn che alla fine ti para sempre il culo, però leggendario è insomma è impegnativo. Ho beccato un paio di bug perché intelligenza artificiale è buona, però ogni tanto c'è la gente, cioè i nemici che stanno fermi oppure si girano e se ne vanno senza motivo, ma soprattutto il boss finale che è lì il cazzetto volante, com'è che si chiama, e cioè praticamente appena iniziato lo scontro mi ha ucciso subito. e non c'era il respawn, perché ovviamente durante il combattimento non rinasci, e il mio cadavere è rimasto lì. E lui ha continuato ad accanirsi sul mio cadavere, continuava a sparare addosso a me, e intanto il mio amico gli sparava, senza che questo reagisse minimamente, e quindi lo scontro è stato lui che sparava al mio cadavere e il mio amico che sparava a lui. Ve la siete finita abbastanza in fretta la cosa. Infatti, questa cosa è abbastanza triste. Però, al di là di questi brutti momenti, alla fine è un gioco molto divertente da giocare. Sì, è quello il fatto che... È divertente, ma scusa, il pezzo, scusa, senza fare spoiler, è un gioco di 2 anni fa, e il pezzo con la Jeep finale, col Wardog finale, dai, è esaltante quello. Sì, sì, è carino, poi è bello anche il fatto che citi la fine del primo. Sì, anche perché era il pezzo migliore del gioco, secondo me, cioè, ti esaltava talmente tanto che ti dimenticavi di quei livelli tutti uguali per ore. Va bene, prossimo. Io velocemente parlerò di 3 giochi, il primo è Rock Band per l'iPhone, che l'ho pagato 7,99€, 2 giorni dopo l'hanno messo a 5,49€, sono molto contento di questo, ogni tanto... No, vabbè, il destino di chi compra applicazioni iPhone, ogni tanto le taglia. No, adesso aspetto 2 giorni e poi la compro. Comunque, allora, il gioco è fatto molto bene, secondo me. Forse 7,99€ secondo me è un prezzo giusto, perché sono 20 pezzi, con la possibilità di comprare altri pezzi dallo store a 79 centesimi. Forse non riesco a capire perché sulle console normali costano 2€ e qua 79 centesimi, meno male. In realtà non è per niente come Rock Band per PSP e per il futuro Lego Rock Band del DS, si possono suonare tutti gli strumenti contemporaneamente, ma è come un Rock Band normale, cioè tu fai la carriera, cioè puoi scegliere, fai suonare la chitarra, la batteria, voce, che la voce purtroppo non si deve cantare nel microfono, ma è sempre uguale alle altre. Anche perché se ci giochi con l'iPod non c'è il microfono. Esattamente. Però è fatto molto bene, sicuramente il miglior gioco di questo genere per iPhone, lì Tap Tap Revolution ha trovato veramente chi se lo incula. E secondo me, insomma, 5,49€ se può fa. La seconda cosa è il demo di God of War 3, che non mi è arrivata la mail da Sony, ma ho razzolato un account. Ladro! Nel senso, me lo sono fatto prestare da un amico. Sì, da un amico, ladro! Che si chiama Innova. No, ma sì, su PlayStation 3, il demo di God of War 3. Il demo che hanno presentato alle 3 di quest'anno. Riesco a capire perché questa cosa è limitata a un certo numero di utenti. Pensano di fare i fighi come Google Wave, che ti mandano gli inviti solo ai VIP, ma sono deficienti, perché non lo possono provare a tutti. Io l'ho trovato una stronzata micidiale, anche perché cioè non c'è proprio motivo. Capisco se era una cosa solo americana, allora tu ti sbattevi per avere l'account americano, eccetera, ma qua l'hanno mandata a caso. Ma poi tra l'altro è un demo che hanno fatto giocare in tre fiere consecutive, ormai l'hanno visto cani e porci. Ma che... io sono l'uomo merda che non era in tutte le tre fiere. No, ho capito, però nel senso ormai su internet l'avranno visto veramente tutti, cioè che te ne frega di farlo giocare. Infatti, sono perfettamente d'accordo. Allora, qua essendo un demo di appunto diversi mesi fa, secondo me il gioco è una figata, perché tecnicamente spacca, non... manca qualche effetto secondo me per migliorare tutto, però gli effetti di luce sono fantastici, texture ottime, violenza inaudita, ma proprio inaudita, qua siamo a livelli... Quindi lo giocherei con il bambino? Ovviamente, cioè c'è un centauro che viene, vabbè, lo si è visto nei filmati, ma quando viene squartato, vederselo nella TV in alta definizione, è veramente... Sì, ma poi tanti. Strappi cuori, teste... Sì, sì, cioè... teste, occhi, La scena della testa è veramente, mamma mia, è veramente sadica, perché piano piano la stacchi. Sì, sì, sì, sì, proprio si vede il pezzo di carne che si stacca, però secondo me è proprio God of War, cioè non c'è niente di nuovo, niente, però è il gioco. Ed è un male secondo te? No, difatti è il gioco che i fan tipo me e te aspettano da un bel po'. Ma il 2 era talmente bello che anche se lo fanno uguale. Difatti, infatti. Ma guarda, fai il 2 con una grafica migliore per me. No. E poi i pezzi esaltanti dove tu eri da solo contro tanti nemici nel 2. Qua i nemici sono decuplicati e ti esalti proprio all'ennesima potenza. Cioè, ti senti un dio. Battutone. E poi il terzo gioco terzo gioco in onore dell'ospite, ho giocato Oktoberfest su DS. Vogliamo dire, perché nell'episodio 31 di Ringcast Yuvara presentava questo gioco venduto, presumo, solo in Germania, non si capisce bene a che target di utenti, probabilmente come souvenir dall'Oktoberfest si può comprare questo gioco DS. Esatto. Davide, per favore dimmi che non l'hai comprato. L'ho provato, diciamo. Per vie traverse, anche tuo perché cugino... veramente... Esatto, mio cugino tedesco, Franz. Franz Moretto. In pratica il gioco altro, non è altro che tu entri alla fiera dell'Oktoberfest e ci sono vari stand dove puoi provare certe cose, tipo puoi mangiare il pretzel, e c'è un pretzel dove col pennino lo rompi e lo mangi. Puoi mangiare. Scusa, l'ostacolo qual è? Non c'è, quello lì non è un ostacolo, okay. Non è niente. Poi c'è invece il giochino del ballo tirolese, quello non so se avete presente, dove ti tiri gli schiaffi sulle ginocchia, sui piedi, addosso, e lì in pratica sulle spalle, sulle braccia e sulle ginocchia ci sono dei puntini che si colorano tipo il gioco Simon di memoria, e tu poi devi rifarli e c'è il pupazzetto che si tira. Delle sberle con della musica molto dei Rammstein, molto sadico. Comunque il gioco è, come dire, è assolutamente idiota, però devo dire che gente che concepisce un affare del genere mi fa proprio pensare che c'è qualcosa che non va nel mondo, perché insomma vedo che costa 18 sterline. Ma scusa, ma c'è un gioco dove si beve la birra o l'hanno proprio eliminato dal gioco? Guarda, non ho frequentato tutta la fiera, devo essere sincero. Ho visto quello allora, dove mangi il pretzel, dove mangi il würstel e dove balli, quella cosa lì poi ammetto che... Ok, no, perché immagino, cioè, se vogliono proprio ricreare questa atmosfera, deve esserci gente che si pisce addosso perché non vuole lasciare il posto. Poi donne con dei balconcini molto sostenuti, diciamo. Che si chiamano tutte Inga, ovviamente. E poi birra a fiumi, e quindi non riesco a capire a chi lo vogliono vendere sto gioco, perché non è molto adatto ai bambini e i frequentatori dell'Oktoberfest non credo che perdano tempo col DS quando possono andare all'Oktoberfest. E per chi non ha i soldi per andare all'Oktoberfest in Germania e vuole vivere l'esperienza da casa, o ancora meglio in autobus. In autobus, per lavorare. Guardate questa immagine, per favore. Mamma mia, devi fargli le 7 stelle di Okuto su questo qua. Ma che ci fa il nero? Sì, è questo qua, vedi? Che ci fa il nero là sotto con l'afro? Quindi qua finiscono i miei giochi giocati e adesso passiamo al consiglio del tentacolo. Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo. E quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove andate, fermi tutti? In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Cotillon. Posso consigliare qualcosa? Allora, primo episodio di Visitors, nuova serie televisiva americana. Riconoscerete alcuni personaggi tipo Juliet di Lost, no, non mi ricordo che nome ha in Visitors, comunque c'è lei, e questo mi fa presagire che non ci sarà in Lost ultima stagione. È molto bello, valori di produzione molto alti, vediamo come prosegue, però m'ha intrigato. Poi cosa consiglio? Dischi, ultimo Kings of Convenience, non so se li conoscete, duo norvegese, fa questa musica molto rilassata da domenica mattina, due voci e chitarra acustica, ottimo. Ultimo Editors, se forse li conoscete, erano sono diventati abbastanza famosi in quel periodo in cui uscivano gli Interpol. Io conosco e apprezzo molto, vado a vedere il concerto a dicembre tra l'altro. Block Party, eccetera. L'ultimo disco... sembra un po' banale all'inizio, invece cresce moltissimo. Ammetto chiaramente, l'ho scaricato la prima volta, dopodiché mi è piaciuto così tanto che ho comprato due copie, una speciale per me e una normale. È una normale che ho usato come regalo, quindi... Scusa, su sto disco leggevo, non mi ricordo su quale blog, sito, uno che lo commentava dicendo: gli Editors si sono rotti le palle di sentirsi dire che copiano i Joy Division e sono passati ai New Order. Ma no, a me è piaciuto molto, perché secondo me hanno il secondo disco è molto debole, nel senso che non è un disco senza direzioni. Invece questo qua hanno fatto un cambiamento, è un cambiamento... non so se per il meglio, perché il primo è bellissimo, però sicuramente è un cambiamento valido e funziona. Le canzoni, dopo un po' che le ascolti, iniziano a entrarti nelle vene, è ottimo. Sì, beh, io ho sentito il singolo, poi ne ho sentita qualcuna dal vivo l'estate scorsa. Poi niente, poi voglio dire che è uscito il nuovo Catatonia, che mi sta arrivando in edizione svedese, ma non mi è ancora arrivato. Mi dicono gran bene, però non l'ho ancora sentito, ma si chiama The Night is the New Day. Per tutti gli amanti della musica là fuori, nuovo Catatonia, ascoltatelo. Ma cos'è Catatonia? Cioè, non so, è difficile da definire. è una band svedese, diciamo heavy metal, però con il cantato pulito. Sono molto particolari, non ci sono poche band che suonano come i Catatonia di adesso. Dategli un ascolto, catatonia.com, non ve ne pentirete, è una delle mie band preferite. Allora, io intanto faccio uno sconsiglio. Io sconsiglio nettamente, per chi volesse studiare storia greca, Manuale di storia greca di Cinzia Berzot. Per farvi capire, ho fatto 3 capitoli, a parte che sono 5 capitoli in tutto il libro e sono capitoli di 100 pagine, questo per farvi capire com'è facile studiarlo. E poi in 3 capitoli l'unica cosa che mi ricordo è che c'erano 2 re che si chiamavano, uno Scopa di Grannone e l'altro Teopompo. ho l'impressione che non diventerai un grande storico. No, guarda, non è quello. Il libro è veramente scritto malissimo, perché sto parlando con tutti i miei colleghi e mi danno tutti ragione. Cioè è una specie di elenco di città, popolazioni, cioè di fatti concreti pochissimi. Quindi boh, lo sconsiglio. Beh, sarà se la figlia di Berzot, quindi scusa. Comunque, poi consiglio un film che ho visto ieri ed è Nemico Pubblico. Bello, quello con, sì, Johnny Depp. Bello. L'avete visto? Sì. No, poi sì. Dopo aver visto quel film ho deciso che mi devo fare i baffetti un po'. Io invece dopo che ho visto il film ho deciso di comprarmi uno di quei mitra con la cosa da... No, tra l'altro, sì, il protagonista del film è John Dillinger, che forse alcuni conosceranno perché esiste la band Dillinger Escape Plan. Un attimo, chi era questo John Dillinger? Era praticamente un gangster famoso quanto Al Capone, forse addirittura di più in America durante quel periodo, perché era una specie di Robin Hood, cioè soprattutto negli ultimi anni della sua carriera, diciamo, quei periodi di depressione, andava, oltre a fare le sue rapine in banca, andava e distruggeva praticamente le carte dove c'erano dei debiti delle persone, cose del genere, quindi era diventato una specie di idolo delle masse. Ma nel film non si capisce tanto sta roba. No, dice solamente in una parte il tizio con i baffi lo prende in giro dicendogli: ah, ho saputo che gli dai i soldi indietro in contribuenti, qualcosa del genere. Ci c'erano degli aspetti della sua vita che sono stati un pochettino tralasciati. Sì, nel film è più lui che si rimorchia sta belloccia e... No, magari è perché volevano evitare di fare il film in cui lui viene dipinto troppo come eroe. Può essere. No, però è molto un film molto bello. Se un giorno dovrete scappare di prigione, vi dà delle idee. Sì. No, devo dire. Tra l'altro non so se posso spoilerare, perché comunque la storia è quella. Vabbè, lui muore. Sì, diciamo. Lui muore, anche se non è... perché ho letto una storia che praticamente... È vivo come Elvis. No, però quello che hanno ucciso fuori dal cinema non era lui. Infatti dice che è suo fratello scemo. No, lui è morto sull'aereo dell'attentato. No, c'era un gangster che era nello stesso periodo suo, che era molto simile a lui. E lui, tra l'altro, negli ultimi anni si era fatto un sacco di operazioni per cambiare aspetto, no? E praticamente dice che all'atto di riconoscere il corpo, si metteva a chiamare Tiziana alla fine. All'atto di riconoscere il corpo, suo padre disse "That's not my boy". E non era suo. My boy. Probabilmente con quell'accento là. No. Comunque il film è di Michael Mann, se non ricordo male, è ottimo. Poi consiglio tre manga velocemente, che sono Bleach, Fairy Tail, un attimo, questo qua lo devo leggere sempre perché non me lo ricordo. Pensa a te che consiglio. Katekyo Hitman Reborn, che è sulla mafia, tra l'altro. Ci credo che non te lo ricordi. Cazzo. È sulla mafia ed è molto bello. Cioè, all'inizio ci sono i primi 5 volumi che vi sparerete nei coglioni per quanto è noioso. Bene. Poi, guarda, 5 volumi io non li leggerei, insomma, se... No, infatti basta saltarli, tranquillamente, come ho fatto io. Ok. Era una storia micidiale. E probabilmente l'autore si è convinto di far diventare questo manga qua, probabilmente uno dei migliori shonen in giro, dato che comunque la storia è interessante. Poi invece Fairy Tail è dello stesso che ha fatto Rave, non so se qualcuno di voi lo conosce, ed è l'allievo di Oda, quello che ha fatto One Piece. Oh. Mentre Bleach penso che sia veramente il manga più bello che abbia mai letto. Oh, addirittura. Sì. Bisogna dare dove siete arrivati. L'hai mai letto 20th Century Boys? Quello è un manga che vale la pena leggere. Guarda, Bleach è più bello. Non credo. Io Bleach ho letto solo di Bleach. So che di Bleach fanno i videogiochi di combattimento, quindi non può essere un bel manga. Stai dicendo, dai. Beh, magari è il più bello nel suo genere, dai. Sentiamo. Basta Gianluigi, hai già parlato troppo. Sto prendendo il controllo del podcast. No, è che essendo siciliano doveva trattarlo come Ferruccio. No, oh, basta questa storia che poi la gente mi manda le storie a casa. No, invece io volevo consigliare solo una cosa, ovvero un nuovo disco degli Alice in Chains che si intitola Black Geese Way to Blue e che dopo la morte di Lane Staley, che era cantante ormai da 14 anni, 15, che è morto, gli Alice in Chains non erano più usciti con un nuovo disco, ovviamente, da un paio di anni girano, fanno tour con un nuovo cantante, adesso appunto è uscito il primo disco in studio con la nuova formazione, e devo dire che è la prima volta che per un gruppo che io adoro cambia cantante e io non tiro bestemmie, nel senso che secondo me questo tizio nuovo è bravissimo, non scimmiotta tanto il precedente cantante, anche perché sarebbe impossibile. Cioè, il disco è proprio un disco degli Alice in Chains, si sente che con le stesse simpaticissime e allegrissime canzoni, per chi li conosce. Secondo me è un gran album, sono tornati alla grande, peraltro dovrebbero essere il 4 dicembre, se non sbaglio, all'Alcatraz a Milano, se non erro. Sì, ci sono ancora biglietti, se non all'Alcatraz o a Rolling Stone, comunque il 4 dicembre deve essere a Milano. Consiglio a tutti di acquistare il disco perché merita. Guarda, il 4 dicembre all'Alcatraz ci sono gli Editors. Ah no, allora... al Rolling Stone. Allora. No, ma Rolling Stone non aveva chiuso. Ma dove cacchio sono? Per strada. Per strada. Sono per strada mentre si buca. È molto grande. Ticket. Ecco, peraltro, io vorrei sfatare un mito. Il grunge, cioè, delle band grunge, no, non solo è morto, non è mai esistito perché... abbiamo i Nirvana che erano punk, i Pearl Jam che erano hard rock, questi che erano quasi metal, insomma, grunge. Soundgarden è un gran gruppo. Ma sì, vabbè, era quella musica un po' depressa con gente vestita male di Seattle. Quindi è un'invenzione dei giudici di sinistra. Esattamente. Cripio, assolutamente. I giudici. Le toghe rosse di Seattle, ho detto una stronzata, e il 2 di dicembre al... consenta. No, vabbè, se non volete ascoltarmi. No, avevo detto che non avevo niente, in realtà ho letto un fumetto ieri, e se vuoi ti consiglio quello perché è bello. E l'hai letto sul sesso? No, allora, è un fumetto che si chiama The Surrogates, i surrogati, che è il fumetto, tra l'altro, da cui è tratto il nuovo film di Bruce Willis, che deve uscire, che penso sia orrendo perché è il regista di Terminator 3. Però il fumetto è molto carino, è ambientato in questo futuro dove ci sono appunto questi surrogati che sono delle specie di replicanti stile Blade Runner, solo che sono, cioè non hanno un'intelligenza, sono controllati in remoto dalle persone, e che è una cosa che in origine era nata per aiutare, per dire, i paraplegici, che così potevano tornare a camminare, tra virgolette, ma in questo futuro qua diventa che tutti usano i surrogati, tutti stanno chiusi in casa e non escono mai e fanno fanno uscire le loro copie, che per evitare malattie, vi dicendo, ma soprattutto ovviamente c'è il ciccione che c'ha si è comprato il surrogato col fisicaccio, piuttosto che, non lo so, quella che per farsi assumere in un'azienda dove sono tutti maschilisti e quindi si fa carriera solo se sei uomo, c'ha il surrogato uomo, oppure il politico che si fa il surrogato di colore per farsi eleggere nello stato dove sono tutti afroamericani e via così. Chiaramente poi sotto c'è un giallo perché c'è qualcuno che sta distruggendo i surrogati perché vuole risvegliare le coscienze, far tornare la gente a vivere, però la cosa più carina del fumetto è proprio il mondo che è raccontato molto bene. Ci sono degli inserti tipo Watchmen con gli articoli finti di giornale, i volantini pubblicitari dei surrogati. Ma il fumetto è americano? Il fumetto è americano, di tale Robert Venditti, e credo che e si intitola Grazie Roma. Esattamente. No, però è molto, molto carino. So che ho letto così un po' su internet che una differenza del film rispetto al fumetto è che, mentre nel fumetto questo tizio che distrugge i surrogati distrugge solo i surrogati, non fa niente agli esseri agli umani che li controllano, perché vuole convincerli a tornare, ad andare in giro. A quanto pare nel film invece distrugge i surrogati facendo morire anche chi li pilota, quindi è ancora più psicopatica. Questo non so come sia il film. Il fumetto è molto carino, lo consiglio, è pubblicato in Italia da Rizzoli. Allora, dopo un tempo interminabile che doveva essere un'ora e mezza e si è protratta per molto di più, io ringrazio tutti i presenti, soprattutto il nostro ospite Tommaso, se vuoi salutare qualcuno, amici. Ma voglio salutare il mio cane che non vedo da 6 mesi e non so, posso dare i contatti? Certamente. Allora, Rincast per il momento lo trovate a rincast.splinder.com, usciamo più o meno a cadenza mensile. In futuro ci saranno dei cambiamenti, spero già in dicembre di poter dire di più, però per il momento l'indirizzo a cui ci trovate è quello là. Basta, grazie per avermi invitato. È stato un piacere. Alla prossima. Saluto gli altri tre fanciulli, ormai non ci sto, sono due. No, è che parli in terza persona. Ovviamente, come lui, il signore unto dal signore. allora saluto tutti e ci sentiamo poi il mese prossimo con altre amenità varie. Grazie a tutti, ciao. I riferimenti del Tentacolo Viola sono, come sempre, il blog all'indirizzo iltentacoloviola.splinder.com, dove è anche possibile trovare il link alla nostra pagina di Facebook, e la mail iltentacoloviola@gmail.com. Potete anche trovarci su Twitter a twitter.com/iltentacolo. Vi ringraziamo e alla prossima. Ciao!